dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Adesso lo dico bene, lo dico bene. Intanto sì. Buona Pasqua a tutti, prima che bisogna dirlo. Così. Ah, proprio facciamo le cose educate, sì, oggi. Sì, quelle cose un po' come si deve. Formali. Basta con questo turpiloquio che sta invadendo il paese, basta. Tutti, tanto siete già tutti a casa, quindi non potete muovervi da lì. State lì, restate a casa, sono le 16.30 e 47 secondi, 16.30 e 49 secondi, 13.30 e 51 secondi, per far capire che siamo in diretta. Guarda, la capacità che ha la radiofonia nelle registrate di riuscire a dire l'ora esatta è pazzesco. Uno registra la trasmissione e va in onda esattamente a secondo. Sto facendo di tutto per far capire che non siamo, cioè che siamo in diretta. 16:31:06. Ad esempio, che tempo c'è? Potremmo andare avanti così per due ore, ve lo dico già tranquillamente. Che tempo c'è a Milano? Sole pallido. Vabbè, quello è facile, lo dicono tutti. Sole pallido è una posizione un pochettino. Adesso così. Tu trovami un meteo che dice sole pallido. Dai, no, scusa, cioè, dai. Che... Sai che io ho un metodo per dimostrare non è che quando tiro giù la musica dobbiamo parlare tutti insieme. No, ma sai che io ho un metodo per dimostrare che siamo in diretta? Dimmi. Fabian Cancellara ha vinto il Giro delle Fiandre. Guarda, la capacità che ha la radiofonia di riuscire a beccare chi vince il Giro delle Fiandre è pazzesco, guarda. Perché così puoi fare delle registrate appena tu lo sai, no? Allora, per far capire, 824 0024 824 0024 824 0024, e questo per dare così il numero di telefono per telefonare qua direttamente e far capire se c'è veramente qualcuno o no. Ci siamo qui presenti, come ad esempio 349 238 6666, 349 238 6666. Voi siete a casa, non siete ancora in giro a fare il giro di fuori porta, non siete andati fuori dalla città nei prati, anche perché sono tutti bagnati, tra l'altro. Puoi andare in mezzo ai prati, a Pasquetta. No, a Pasquetta si va. Tanto oggi c'è il sole pallido. Il sole pallido che gli prima asciuga. Prima devi portare l'idrovola, portare via l'acqua, perché ce n'è talmente tanta di acqua, voglio dire. E poi ecco, appena giusti, potete benissimo telefonare o mandare gli sms al 349-238-6666. I più tecnologici, cioè quelli che appunto vivono attaccati al PC e si guardano bene da togliere le pantofole, possono invece scriverci su Face. Esatto, c'è la pagina Facebook, dai e vai Radio 24, con la e commerciale Dai e vai Radio 24, e lì all'interno potete commentare, potete guardare le immagini, potete insultare, ci sono anche dei filmati oggi. Ci sono dei filmati, no, fate una cosa, insultateci, così poi dopo diventate subito deputati. Non so se hai notato, ieri pioggia. Partite. No, pioggia e freddo. Pioggia, vento, ma freddo grandine, tanto. Cioè, di tutto, insomma. Sì. Ecco, partite. Sì. No, oggi sole tiepido. Pallido, come si dice, no? In genere, queste cose. Non so adesso se poi in giro per l'Italia sta piovendo o sta grandinando. Però in questo caso, no, qui dove c'era la partita clou, no? Ieri c'era la pioggia, c'era il vento. Pioggia, chi è che bussa, Chi è che bussa allo stadio? In questo caso. Però lo stadio pieno, comunque. Pieno. Hanno venduto gli ultimi 2000 biglietti proprio poco prima dell'inizio. Sì, Inter Juventus, ricordiamolo. Stai parlando di prima dell'inizio? Prima dell'inizio della partita? Proprio lì? Sì, mentre stava accadendo delle cose? 13:45 San Siro all'esterno, piove. Ovviamente chi è che doveva venire a San Siro? No, non Luca Cancellara, non Sergio Ferrentino, no, io qua al freddo sotto l'acqua a vedere Inter Juventus, dico, non me ne frega assolutamente niente. Senta, ma questo tempo si può venire allo stadio? Guardi, sull'abbonamento cosa vuol fare? Siamo abbonati. Da quanti anni? Te la dico, più di 30 anni. Io ti dico una formazione. Dai, sentiamo la formazione. Sciarti, Burgni, Facchetti. Ma sempre quella. Bedin, Guarnieri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez, Col. Cosa si aspetta da oggi? Ma è una gara di carattere. No. Com'è che ci si veste per un Inter-Juve così piovoso e umido? Ci si veste con le scaramanzie. Ah, tipo? Fosse stato anche una giornata calda, io porto sempre la sciarpa di lana, avrei messo la sciarpa di lana. Come finisce oggi? 2-0. Per chi? Per l'Inter, ovviamente. Il problema è che non si trovano Juventino, mannaggia. Eccoli qua gli Juventini, attenzione. Juventino, deduco. Io sono Juventino. Oh, come finisce oggi? Si finisce oggi 2-1, Juve. Per la Juve, chi è per che Juve segna? Uno gol ho fatto Vidal, secondo, Segura, Giovinco. Siamo venuti dal Canada per vedere questa partita. Sono venuti dal Canada. Per vedere la partita. Neanche shopping sono andati a fare. Solo la partita. Dal Canada. Forse sono andati in Duomo. Ma siamo venuti da Montreal perché era più vicino. No. Da Toronto. Vedrai. Ma dai. Sì. Quando è che siete partiti? Siamo partiti ieri, siamo arrivati stamattina. E poi quando è che tornate in Canada? Lunedì. Avete un club e vi ritrovate in qualche... Sì, io sto con Inter Club di Toronto. Lui ha detto che vince 2-1 la Juve, per lei? 2-0 Inter. E chi è che segna? Cassano. Sì. Melito. Beh, diciamo che la notizia poi è cambiata, insomma. No, è che non è ancora arrivata in Canada, il fatto che si è fatto crociato. Ma perché se fossero vicino a Montreal sarebbe arrivata prima la notizia. Invece in questo Toronto. Caso. Invece dall'altra parte è Toronto e quindi, vabbè. Non li hanno ancora avvisati. Allora, la trasmissione, oppure dite qualcosa di più interessante. Non ho capito, cioè abbiamo appena iniziato, scusa la trasmissione. Stiamo per dirvi delle cose, no? Fabrizio. Ecco, allora un altro così, poi ecco, diciamo che possiamo dirci che ci vogliamo tanto tanto tanto bene. Fabrizio, faccia almeno iniziare la trasmissione, no? Perché siete così, oppure ci stroncate. La sigla è iniziata, dice ma che trasmissione di merda, perché abbiamo detto che Cancellara ha vinto il Giro delle Fiandre, tra l'altro, qualcosa di interessante, informazione c'è. Davanti a Sagan e Rulands. Però stavo dicendo O ci stroncano subito sulla sigla, oppure dice complimenti per la trasmissione, non abbiamo ancora iniziato, dateci il tempo, no? Per andare avanti. Per esempio abbiamo dato il pre-partita, poi dopodiché, come sempre accade, la partita inizia, ci tocca la partita, quindi ieri ancora una volta in campo. Stanno per entrare in campo le squadre, la coreografia dell'Inter, orgogliosi di essere gli unici, uno striscione, poi una coreografia che cambia e viene fuori una scritta: mai stati in B. 15:01 e 48 iniziata in ritardo Inter-Juventus. Chi favorirà questo ritardo? Questo è il primo tema della partita. 2:43, il classico tiro di Quagliarella, da solo lui dove se l'è inventato. Sì, gol, l'ha messa. 1-0. Vabbè, stai attento, così, c'è tutta la partita, sì, è solo 2:43, sì, può succedere presto, di hai ragione, tutto. È presto. Sento però che possiamo farcela. Non è detto. Secondo me si può tentare la sortita. Juve 1, Inter 0. Che tiro che ha fatto. Oh, l'ha messa proprio lì. È il momento della caramella. Che è stata gentilmente. Sì, questa non è che proprio la radiocronaca. È un dato di fatto. Sì, no, cioè, c'hai tempo di dire delle cose. Sai che il microfono è acceso. Puoi dire anche delle cose intelligenti. Prima, perché sennò poi Fabrizio si arrabbia. Capito? Se non dice delle cose interessanti, parli della caramella, si arrabbia. Poi, tra l'altro, quando la registrare, puoi anche montarlo. Quindi, questa della caramella, puoi anche toglierla. Offerta. 43esimo minuto. Caramella. Ancora. Lemon mint. Scusa. 15. Caramella e salamella? No, lemon mint, era lemon mint, limone mint. Ma è sempre caramella quello. Sempre caramella. 47-04, termina il primo tempo, 1-0 per la Juve. E nell'intervallo, omaggio a Enzo Iannacci con le sue canzoni. Ciao Enzo. Freddo porco, porco cane, che freddo che fa. No, così tecnico, te l'ho detto mille volte, non devi essere, cioè, capito? Ti sento un po' troppo sul... Scusa, il giornalista radiofonico. Fabri, scusaci, non è colpa nostra, comunque è Luca Gattuso che ha fatto questo servizio. Il giornalista radiofonico... Fabrizio è incazzato come una iena. Guarda, il giornalista radiofonico descrive gli eventi, quello era un evento, facciamo un freddo porco. Fabri, 349-238-6666, se non ti interessa dicelo che noi cambiamo subito argomento. Intanto nella curva sud compare uno striscione piccolo con scritto: Conte non ti illudere, piuttosto che te, Gasperini. 9° minuto. Ronaldo, Palacio entra in area, in fila alla sinistra di Buffon, 1-1. Stramaccioni, c'ha solo la giacca, camicia e giacca, ma non ha freddo? Anche qua, questa overdose di tecnicismo. Vabbè, cioè, cosa accadeva in campo? Cosa succedeva? Ha segnato Palacio, ha segnato. Sì, ha segnato prima. Cioè, sugli spalti cosa succedeva? Lo striscione l'abbiamo descritto. Vabbè, niente, insomma, vabbè, certo, ti abbiamo mandato lì così a ciondolare, hai capito? Qua trema tutto, le tribune tremano perché chi non salta Juventino è balla tutto, qua sembra terremoto. Scusa, che cos'è questo? Adesso lo dico. Che cos'è adesso questo? Adesso lo dico. 14esimo e 20, entra Quagliarella da destra, la mette sul primo palo, Matri in fila fra Andanovic e palo, 2-1 per la Juve. Un attimo di riflessione, cari ascoltatori. Ecco, quello che avete sentito, voglio dire, era l'urlo del Meazza proprio durante la partita Inter-Juventus. Con la Juve in trasferta. Esatto, con la Juve in trasferta, quell'urlo di gioia erano i juventini, infiltrati. Molto infiltrati. Un po' dappertutto, no, diciamo, maglie, insomma. Nel terzo anello. Ovunque, scusa, dovrei interromperti. Terzo anello blu. Anche era, qua là è... Terzo anello blu era tutto pieno, sì. Però c'era molta gente in giro, poi infiltrata. Saluto la Brianza bianconera. E Matri va ad abbracciare Anelka, e ci credo. Finché Anelka sta in panchina, Matri gioca. Ma come sei? Tecnico, come sei? Tecnico. Come sei greve, cioè, questa cosa qua? No, lì è amicizia. Anelka e Matri. Sì. Che lingua parlano secondo te? Cioè, franco italiano. Ecco. E Cambiasso viene espulso per un fallo a partita finita su Giovinco. È entrato sulla caviglia, ha visto la caviglia, gli è entrato. Ecco, vogliamo fare un attimo il punto su questa storia della caviglia, perché Cambiasso ha fatto questa dichiarazione incredibile. Sì. No, si capisce lontano meglio che io sono entrato non per far male, perché se avessi voluto far male sarei entrato con la gamba un po' più alta. Più alta, esatto. Sono entrato, cioè, allora, dire che ha fatto bene, no. Diciamolo chiaramente, non è il caso. Da però già il fatto che abbia, riferendosi a Giovinco, abbia detto sono entrato basso, sembrava un pochettino offensivo nei confronti, sì, di Giovinco. Sì, no, più che altro è che era troppo basso in quel caso. Esatto. Vabbè, insomma, comunque, finita? Finita. 2-1 è finita la partita. What's this? Se proprio volete dirci qualche cosa, insomma, di questa Inter o di questa Juve, poca cosa, c'è poco da dire, ormai hanno detto tutto, hanno detto assolutamente tutto, quindi cercate di dire delle cose soltanto originali, telefonateci solo per quello al 349 238 6666. Invece potete mandare tutti i messaggi che volete, tanto non necessariamente noi possiamo leggerli, oppure anche scrivere sulla nostra pagina Facebook, dove c'è tra l'altro il video di che cosa? Della coreografia che abbiamo descritto pochi istanti fa. E all'inizio della partita una coreografia, come si dice, changeant, nel senso che cambiava, c'era il changeant. Dove? Così. Dov'è generale, che si dice così? Changeant. No, dimmi dov'è che si dice. Gilberto Govi lo diceva, sì, ad esempio. Changeant. Esatto. È una coreografia che si trasformava. In un primo tempo faceva vedere i tre simboli del triplete nerazzurro e poi la scritta mai stati in B. Mai stati in B. Esatto, proprio cambiava. Sì. Sulla pagina Facebook di Dai e Vai vedete un filmato in cui si vede questo cambiamento. Sì, l'hai già detto, adesso non insistere. Abbiamo capito che hai fatto delle riprese da questo punto di vista. Beh, basta così, è già finito? Sì, no, ecco, vabbè. No, ecco, diciamo che c'è poi un altro pezzo che dovremmo appunto approfondire, e cioè quello del post, perché gli interisti come ne sono usciti? Un po'... Diciamo, juventini felici, interisti tristi, inspiegabilmente questa cosa. Mamma mia, guarda, per fortuna vanno i giornalisti come te ad affrontare un po' queste cose. Cioè, mi stai dicendo, mi stai dando questa notizia, chi ha vinto era felice, chi ha perso era triste. Ma ti dico di più, sono riuscito a trovare un interista che era contento del risultato. Sai che io comunque sono rimasto impressionato sul dibattito da Conte, che fa il professionista e che vuole può andare dovunque a giocare, e invece Stramaccioni che ha detto io mai alla Juve. No, non ha detto mai alla Juve. No, ha detto io difficilmente metterò quella indosserò quella maglia. Cioè la Juve subito no, ha detto fra 4-5 anni. Non ha detto Juve subito, ha detto no, quella com'è che ha detto? Ha detto la Juve subito no, ha detto, ma proprio la Juve no. Proprio la Juve no, ha detto. Ecco, quindi proprio la Juve no, quindi vuol dire che quella maglia non la metterò mai. Dai e vai. Non è solo calcio. Arriva prima o poi. Ti stavi già bioccando, ti ho già visto, eri già lì. No, stavi facendo già. Stavo aspettando di capire se si era incantato il disco. No. Non si canta più il digitale, non lo so, però sembrava incantato. Sì, adesso smettila, adesso arriva. Senti come cambia. Un ritmo. Abbiamo detto che Cancellara ha vinto le Fiandre? L'hai già detto 8 volte, almeno il secondo. Vabbè, Peter Sagan e terzo Rolands, il belga, e quarto il norvegese Christoph, il primo italiano dietro. È arrivato Paolini attorno all'undicesima o dodicesima posizione. Ah, però, neanche tanto... Cancellara in fuga, circa 10 km alla fine, è scattato sull'ultima salita, ha salutato tutti, è iniziato a pedalare come un motorino, brum brum brum brum, e se n'è andato via. Ecco. Vai. Ma le coreografie dell'Inter che ho visto sul vostro Facebook erano fatte con bandiere o cartoncini? Oh, bella domanda, finalmente entriamo su una cosa. Grazie Alessio, grazie. Entriamo sulla parte tecnica e Luca potrà illuminarci d'immenso su questo aspetto. Allora, 349-238-6666, l'SMS di Alessio era fatto sia con bandierine che con cartoncini, nel senso che quando inquadravano, quando raffiguravano il triplete erano cartoncini, mentre la scritta "Mai stati in B" la facevano con delle bandierine gialle, nere e azzurre. Mamma mia, pazzesco. Guarda, vabbè. Comunque parliamo di cose serie, perché mentre tu stai ciondolando a casa tua, caro Alessio, me lo dico anche a te che stai ciondolando qui nello studio, c'è gente che anche a Pasqua fa sport. Sì. Beh, sport, insomma, adesso è un po' così, un po' difficile per certi versi. Quelli che a Pasqua fanno sport. Esatto, cioè, è un po' complesso per certi versi. Però devo dire, se noi dovremmo avere al telefono, no, perché è appena caduta la linea, in questo perfetto. Caso. Vabbè, quindi arriverà prima o poi, però intanto cerchiamo di spiegare di che si tratta, perché sono personaggi un po' strani per certi versi. Giustamente ecco. Sono dai e vai, Veronica Rizzoli e Leonardo Corradini. Cosa fanno? Vanno in giro per il mondo in bicicletta. In bicicletta, quindi come Cancellara che ha vinto le Fiandre, uguale, va in giro per il mondo in bicicletta anche lui. Ti ringrazio per questo tuo intervento che ci illumina d'immenso, però la cosa che è più interessante è che cosa fanno. Life in travel, cioè nel senso che questi se vanno in giro proprio per il mondo e in questo momento stanno facendo l'allenamento per il prossimo viaggio che loro faranno. Che dov'è sarà che vanno? In Scandinavia. In Scandinavia? Sì, no, faranno proprio il giro della Scandinavia in bicicletta, cose di questo genere. Ma questo è abbastanza insignificante rispetto a quello che hanno fatto nel 2011, signori. Cioè hanno fatto un bel giro di 10 mesi. Thailandia, Laos, Cambogia e Malesia, Indonesia. No, però. Ecco, tutto in bicicletta, 12.000 chilometri si sono sparati. Quante con meno bucate? Vacanza lunga, comunque, mi viene da dire. Veronica, pronto? Ciao! Ciao Veronica! Dicevamo, stavamo parlando della vostra impresa nel 2011, che ci ha molto colpito e quindi vi abbiamo subito telefonato, cioè 12.000 chilometri, è giusto? Circa? 12.000, però in 10 mesi. Ah beh, certo. Scusa, effettivamente sono 1.200 km al mese. Sì. No, ma poi quando inizi a pedalare non te ne accorgi. Sì, aspetta un attimo che facciamo bene i conti, perché 1.200 km al mese diviso 30 giorni. 40 km al giorno, giusto? No. Dai, allora non è così tanto. Sì. Non è una sciocchezza 40 km al giorno per 10 mesi, no? È un bel allenamento. Ecco, poi le strade d'Asia tanto cioè per la maggior parte comunque, a parte l'Indonesia, sono piuttosto pianeggianti, un po' collinari, dai, però. Vabbè. Senti, Veronica, con il massimo rispetto che contraddistingue i conduttori di Dai e Vai nei confronti degli ospiti, tu devi avere un paio di cosce mica da ridere. Ma che che domanda no, è? No, cioè, perché sei una pedala, cioè, no? No. Le porti benissimo. Comunque, scusa l'intervento di Luca, che veramente mi ha messo anche un po' in imbarazzo, anche a me, perché... Ma va, figurati! Sì, no, ma sai, il paese si sta un po' involgarendo, io vorrei evitare questa tendenza, insomma. Comunque, bellissime, in qualsiasi caso. La cosa che ti volevo chiedere è che in questo momento tutti vi state allenando per la prossima impresa, che noi l'abbiamo detto così, ridendo e scherzando, andate in giro per la Scandinavia, giusto? Sì, questi erano i programmi per la prossima estate. Ecco, quindi... e vi state allenando dove di preciso in questo momento? Adesso ci avete preso che siamo sulla salita, insomma, stiamo andando verso la 4. Pronto? Sì, sì, ci siamo. Siamo qua immobili noi. Ah, ok, scusa. Eravamo terrorizzati che fosse caduta, scusa. No. Stiamo salendo verso la Sacra di San Michele, siamo sulla via Francigena della Valsusa. Cioè, quindi state facendo la via Francigena della Valsusa, ho capito bene? Sì, esatto. Ah, ho capito. E quanti adesso chilometri? Siamo a quasi a 1000 metri. Sì, però... a Pasqua quanti chilometri sono così? Ridendo e scherzando. Sì, per ora sono 57, però mi sa che arriviamo sul centinaio per un centinaio, sera. Beh, il centinaio di Pasqua, come dire, come minimo. 100 chilometri? Sì. Tra l'altro in salita, non so come dire. Cioè non no, come, no, certo. Non come te, no? Se, no, no, figurati, io non li faccio neanche in moto 100 km. Di sgallettare qua e là, insomma. Senti, Veronica, ma che tipo di bagaglio avete quando fate questi giri? Cioè, cosa vi portate dietro nello zainetto, nelle borse? Beh, sì, un paio di cambi, tipo maglietta, un paio di magliette, insomma un paio di pantaloni per la sera... mutande ovviamente e il costume da bagno che non si sa mai, adesso no magari, però in estate sì, e poi sempre la macchina fotografica, quello è il peso più grande, certo, anche quello più inutile perché non puoi lavarlo, tra l'altro, la macchina, perché si resiste. No, però dico 10 mesi con con due magliette, sì, è un po' pochino, voglio dire, per certi versi, magari... No, beh, in Asia avevamo anche la tenda e certo, dove cambiarvi, tre cambi invece che due. Senti Veronica, finalmente ci siamo messi in contatto anche con Leonardo, che è quello con cui viaggi e viaggiate insieme, giusto Leonardo? Pronto? Ah, anche lui qua. Sì, ciao, ci sono, eccomi qua. Veronica, Leonardo, Veronica si è un po' stizzita dal fatto che ci sei anche tu al telefono, lo dico già subito. Ha detto, c'è anche lui, vabbè, allora parliamo anche con lui, vabbè, su questa cosa. Iniziate, se volete io mi metto qua in un angolino, riposo un po' e... Ogni tanto abbai così, queste cose, esatto. Sappiamo che ci sei, insomma, in questo caso. Esatto. No, resta un po' con... No, dicevamo, ma allora sta Scandinavia, riuscite a farla? Quanti chilometri sono in Scandinavia che dovrete fare? Ma allora, non c'è nessun piano preciso, noi di solito partiamo e quello che riusciamo a fare facciamo, nel senso che poi sono le gambe che ci dicono fermatevi, andate, non abbiamo grandi piani. Ecco, diciamo che parlano poco le vostre gambe se siete riusciti a fare 12.000 chilometri in Asia, tra virgolette, non c'è un grande dialogo, siete voi che fate un monologo in questo caso. Loro vanno e poi insomma, quando sono morte ci fermiamo. Sì, ma come mai anche a Pasqua avete deciso? Cioè, voi non vi fermate mai? Tutti i giorni? Quando abbiamo un buco libero dai nostri impegni, saltiamo in sella. Insomma, quindi domani buco libero, domani? No, domani riposo, è Pasquetta. Si mangia. Ah. Si mangia? Come si mangia? Ecco, Veronica, allora abbiamo appena leggiato le tue gambe, adesso subito tu mi parli di mangiare. Vabbè, sentite, allora, quando è che partirete in Scandinavia? Veronica? Sì. Quando è che partirete in Scandinavia? Quando è che andrete a sedere, se andrete? Verso fine giugno, luglio e agosto. Ecco, Leonardo, scusa, il tragitto di questo percorso, di questa strada francigena, dov'è che va a finire? Cioè, voi l'avete già studiato bene questo percorso qua? Parte da e arriva dove? quello che stiamo facendo oggi, noi siamo partiti da Olx, da in cima in pratica alla Valsusa, e adesso si sale qua alla Sacra di San Michele e finisce a Torino in pratica, ah, per noi. Ah, quindi poi a casa. Poi prosegue e scende fino a Roma. Sì, no, beh, questo sì. Come si sa, tutte le strade franchigine portano a Roma, tra le altre cose. Senti, ti ringraziamo, grazie Veronica. Grazie a voi. Resta sempre così. Ciao Leonardo. Ciao. Ciao, buona ecco, grazie. Più simpatica Veronica, sì, di Leonardo. Molto più simpatica. Molto poi più si presenta anche meglio. Tra l'altro. Sì, no, la cosa che mi ha lasciato un problema è detto buon divertimento, ci ha detto. Ah, noi. No, e beh, sono cose che lasciano un po'. Non so se l'hai già sentita questa canzone. Questa qua sì, sì, ma poi parte. Dopo guarda un po', che non è male, tu la stai un po' trascurando. No, questo passaggio qua. Ma guarda che poi ha delle cose da dire questo pezzo, tanto che tu... Dopo un po' le dice. Senti, volevo dirti che volevo farti ascoltare anche dei pezzi post partita. Sì. È presente la post partita? Sì, di sì, quando sera. È finita 2-1 per la Juve. E quindi voglio dire, in questo caso, se vuoi ti rifaccio no, sempre. No, ma adesso no, guarda, non mi sento, proprio non c'ho voglia adesso. Proprio, non c'ho voglia. Scusa, ma... Luca, l'hai fatto anche tu. Non sì, ho capito, però non è il momento, capisci? Ogni cosa al momento giusto, non è che puoi avere sempre tutto e subito. E qual è il momento giusto? Il momento giusto è dopo, adesso non è il momento giusto. Dopo cioè, quando, no, scusa? No, così, un attacco. No, ma che un attacco, no? Cioè, un assaggio, così. Ma così tanto per sentire un po' che cosa... Cosa è mancato all'Inter oggi? Ecco, basta, per esempio, già mi sembrava già fin troppo come elemento. Beh, bella domanda, partenza proprio ficcante sul tema della giornata. Cos'è mancato all'Inter oggi? No, ti è piaciuto? Tipo? Vedrai Pelé. Dopo risposte, sì. Cos'è mancato all'Inter? Anche Ronaldo. Rummenigge è mancato. Anche Schneider è mancato, sì, ad esempio. Vabbè, beh, sicuramente sai che cos'è Adriano. Mancato? Adriano. Milito sicuramente è mancato. Sai che non gli è mancato? No, Quaresma, io mi ricordo che Quaresma non è mai mancato all'Inter. Anche Juari all'Inter è mancato. La spinta di Cassano che è un peso morto. Come un peso morto? È un peso morto. Come un peso morto? È un peso morto. Ha fatto la migliore partita. No, è un peso morto. La Gazza gli ha dato 7. No, è un peso morto. La Gazza gli ha dato 7 del fantacalcio. Scusa, cioè, è come al ristorante. Il cliente ha sempre ragione, allo stadio il tifoso ha sempre ragione. Cassano è un peso morto. Ma non è vero. L'ha detto lui. Sì, vabbè, scusa. Ci manca una punta veramente come si deve. Tipo? Milito. No. Tipo chi? Milito. Dai e vai, non è solo calcio. Chi صدرك شفت عينيك مفتوحة ودي دمعك ديك أحلاك تاني كي شفت عيونك Claudio. sei tra noi? Pronto, Claudio? Pronto, ciao, Claudio da Trento. Come... Ah, ci sei, ecco. Ciao Claudio, come stai? Benissimo, spero anche voi. Beh, insomma, anche abbastanza. Moderatamente. Allora, tu sai che noi a Pasqua abbiamo un filtro maggiore, cioè non è che possiamo prendere qualsiasi segnale così, qualsiasi telefonata. Allora, tu vuoi parlare di che cosa? Di Inter-Juve, per esempio? Di Inter-Juve, un grandissimo intervento di Cassano che nessuno ne fa presente, ne fa la memoria. Cioè, cosa ha fatto? Cassano ha fatto un grandissimo intervento, ha fatto paura alla Juve quando ha capuzzato Conte, i capelli di Conte. Ah, è il rischio più grosso della Juve che ha corso, Oh, beh, certo, d'altra parte. Paura che ha fatto prendere. Mamma mia, ci siamo persi dei pezzi così importanti. Cioè, tu dici che l'azione più ficcante da parte dell'Inter è stata quella di Cassano quando è andato a scompigliare un po' i capelli di Conte. Esatto, è proprio la zona dove la Juventus ha avuto più paura di tutte. Senti, serata, giornata buca oggi, No, dico per ascoltare noi, voglio dire, in questo caso. Andando a guardare la grande Itas di pallavolo adesso. Ah, cos'è che vai a vedere, scusa? Itas di Trento, di pallavolo. Ah, però, hai visto. Itas pallavolo, sì, la grande squadra, sì, ci sono, certo. I playoff. Cioè, certo, l'abbiamo già, abbiamo detto, va bene. Senti, magari poi, a che ora finisce, non lo sai? Ma se tutto va bene, un'ora e venti, comincia alle 6, quindi verso le 7:30, 7:20. Ah, purtroppo non ci saremo. Vabbè, dai, comunque, in qualsiasi caso, intanto auguri, intanto, la prima cosa che ci viene in mente. Come auguri? Eh? Cioè, sarà tifoso di Trento, gli dice auguri, gli porti una sfiga. No, auguri di Pasqua, cosa c'entra? Ah, scusa, no, figurati. Okay. Auguri all'Inter. Il lupo si dice. Ah, sì? Ma io volevo darti appunto gli auguri di Pasqua e auguri anche alla tua squadra, che è l'Inter. Ciao, grazie, è stato bello. Ciao. Ciao, andiamo su cose serie, perché sì. Su cose importanti, perché finalmente si riesce un po' a capire, perché anche quelli che in qualche modo sono un po' gnocchi e zucconi come me, no, e non intendo, come non faccio una citazione del giornalista, sì. Dico zuccone proprio nel senso che è proprio un po' tardo rispetto ai numeri, in qualche modo si riesce a capire qualche cosa leggendo questo libro, che noi felicemente e soprattutto con grande entusiasmo segnaleremo e segnaliamo Aurora. Il calcio ai tempi dello spread di Gianfranco Teotino e Michele Uva, le edizioni sono quelle del Mulino, sono la bellezza di 300 pagine piene di numeri, di dati, della situazione dell'economia del calcio. Dillo bene però, cioè, la gente mette subito giù. No, non è vero, cioè, sono tra l'altro dei dati molto interessanti, delle informazioni molto precise sulla situazione economica del calcio in questo momento, non soltanto in calcio italiano, perché si parte dal calcio italiano, ma si va anche a vedere un po' il quadro mondiale del calcio. E abbiamo al telefono Gianfranco Teotino, che ringraziamo anche perché per oggi magari si stava lì stai mangiando, pronto? No, ho finito, ciao, grazie. Finito? Buongiorno. Hai finito di mangiare? Sì, ho finito, insomma. Qua ho mangiato anche poco, io sì. Mi tengo un po', sì. Sono, c'è una ristrettezza. Sì, però metti giù quella torta che c'hai lì in mano, non è il caso di tenerla lì. Aspetta, no, che io devo ingoiare un momento. Senti, Gianfranco, era per farti una domanda così tecnica e soprattutto stare in tema, no? Visto e considerato che stiamo parlando di numeri, riesci a vendere questo libro? No, non lo so, non ne ho la più pallida idea. No, perché insomma, cioè, come no, io non voglio vendo, cioè spero che venga anche usato all'università. Adesso, voi l'avete presentato molto bene, però è un po' più un libro universitario che non da gioco di Pasqua. Esatto. Però in realtà sai come sono i giocatori, i tifosi, no? Cioè, sono tanti, quindi qualcuno magari ci sarà un commercialista interessato almeno a sapere come butta questa storia, no? No, ma alcune cose sono anche interessanti anche per i tifosi, non solo per i commercialisti, no, insomma, ecco. Cioè sapere perché Kakà gioca nel Corinthians e non nell'Udinese come Zico è abbastanza interessante, perché no? Così l'approccio è che l'Udinese non c'è i soldi per comprarlo. Io ho detto Kakà invece di Pato, sì. Ah, ecco, che spavento. Dei pesi del tanto Pasquale. Sì, no, ti preoccupare, ti ho detto di mettere giù questo questa fetta di torta, anche perché così riesci a vedere bene gli appunti, hai capito, in questo caso. In questo passaggio ci vogliono tre paio di occhiali. Esatto. Vabbè, però adesso parliamone rapidamente. Purtroppo io passerei tutta la giornata a parlare con te di questo libro, ma però dobbiamo parlare e cercare di dare degli accenni e soprattutto convincere gli ascoltatori ad andarlo a comprare appena finita questa trasmissione. Ecco, c'è una frase molto rassicurante quando a un certo punto del libro si parla della situazione economica e si dice che il campionato di Serie A ha 300 milioni di deficit e oltre 2 miliardi e 650 milioni di indebitamento, e nel libro c'è scritto: in assenza di nuove disponibilità dei presidenti bisogna avere un netto cambio di rotta, se no non ce la si può fare. In realtà già c'è stato in parte, no? Purtroppo, nel senso che avete visto che già dall'estate scorsa Milan, l'Inter soprattutto, alcune società hanno cominciato a vendere i giocatori, no? Per starci dentro, insomma, anche certo. Perché io non lo so poi se queste regole dell'UEFA, che noi anche in questo libro descriviamo con dovizie di particolari, verranno mai messe in atto. Pare di sì, soprattutto non si sa se ci saranno, se saranno poi applicate sanzioni a chi viola queste regole, ma insomma, per starci dentro bisogna veramente cambiare rotta, bisogna, non si può più fare deficit di bilancio come quelli che fanno le squadre di Serie A, le principali squadre di Serie A italiane, soprattutto i presidenti non possono nemmeno più ricapitalizzare, no? Secondo oltre una certa quota molto bassa e solo per i primi anni, per cui bisogna trovare un equilibrio di bilancio tra costi e ricavi, che in questo momento non c'è. Qualcuno ha cominciato a lavorare sul piano dei costi, ma questo, se viene fatto solo questo tipo di lavoro, il risultato però non può essere che un impoverimento ulteriore del nostro campionato, perché tu vendi giocatori migliori, spesso sei costretto a venderli all'estero e quindi si diminuisce il livello qualitativo, e quindi l'interesse cala, no? E quindi i ricavi calano di conseguenza. Guardate che è una situazione che è molto simile, purtroppo l'ha anche un po' prevenuta, a quella del paese in generale, no? Cioè c'è un profondissimo rischio declino, insomma. E tu sei costretto a dover contenere dei costi come la spesa pubblica, e poi però se non rilanci l'impresa, dopo sei fregato. Prossimo anno arriva il Sassuolo, vince tutto, o vince vince, che fa un po', sai, quella parte un po' così, no? Cioè, un po' strana. No? Cioè... In realtà il Sassuolo è un caso poi che andrebbe studiato a parte, esatto. No? Perché il Sassuolo è diciamo una specie di braccio di una grande società italiana, no? Che viene usata per piazzare. Beh, la Juventus ha un rapporto privilegiato con il Sassuolo, molti dei suoi giovani li manda a crescere lì, ed è anche una cosa intelligente comunque da studiare, insomma, per cui però è da capire se poi ha un senso che una squadra che si chiama Sassuolo poi gioca a Modena e ha i giocatori della Juventus. Certo. Lo butto lì. Però scusa, ecco Gianfranco, resta lì con noi, perché dobbiamo ovviamente avvisare i nostri ascoltatori del traffico che c'è in questo momento in giro per l'Italia. Dai e vai, non è solo calcio. Gianfranco Teotino al telefono qui con Dai Vai, e stiamo parlando del il calcio ai tempi dello spread, e volevo chiederti in questo caso, io mi immagino tra qualche anno, no, le squadre e comunque i campionati europei, dove ci saranno delle squadre, come dire, tra virgolette di seconda categoria, non delle squadre di Serie B, all'interno delle Serie A ci saranno delle squadre di seconda categoria, e poi ci saranno due o tre squadre per ogni campionato con dentro dei sceicchi oppure dei russi, o adesso non so, il principe del Bahrain è uno solo, quindi non vale, non può prenderne tanti, oppure miliardari, oppure dei fondi americani e cose di questo genere, e loro avranno i giocatori migliori, avranno i giocatori più forti. Ma io insomma penso che intanto questo modello non è più replicabile, sempre se l'UEFA fa sul serio. Stiamo parlando Platini e tutto il fair play che si diceva. Esattamente. Perché non si può più fare come ha fatto il Paris Saint-Germain, come ha fatto il Manchester City, si devono anche loro, stanno cercando di far rientrare i conti, soprattutto il Manchester City, o stanno anche cercando di aggirare queste regole con formule un po' strane, tipo voi sapevi, dicevo prima, che non se tu hai un deficit spaventoso, d'ora in poi i proprietari non potranno più ricapitalizzare oltre una certa cifra, no? Allora cosa stanno facendo queste società che hanno gli emiri, gli sceicchi o comunque questi potenti padroni? Non ricapitalizzano, ma si fanno sponsorizzare da aziende di proprietà della loro proprietà, che versano una quantità di milioni spaventosa, ed è come se ricapitalizzassero, certo. No? Questa cosa è dubbio se verrà considerata violazione alla norma oppure no, però secondo il buon senso e secondo quelle che sono le idee di Platini, questa verrà considerata una violazione della norma, non potranno più fare nemmeno questo, e allora anche queste società dovranno trovare un equilibrio economico tra conti, tra costi e ricavi. Dopodiché però, se qualche Miro, qualche vero, però non la barzelletta come quella che ci è stata raccontata dai tifosi della Roma qualche giorno fa, o qualche piano, piano che è permaloso, tra l'altro. Voglio dire, lui e suo fratello sono permalosissimi, capisco, però questo è. E qualche russo magnate o qualche americano con i dollari veri venissero in Italia, non sarebbe male. Il problema è che non ci vengono, perché non si riesce a fare quello che loro in altri paesi riuscirebbero a fare, che non è solo comprare i giocatori, ma è costruire un business attorno alla squadra di calcio. Ecco, a proposito di business, una delle cose che si dicono è avere lo stadio di proprietà. Ma dov'è che si guadagna sullo stadio? Perché non è chiaro questo meccanismo del fatto di avere lo stadio di proprietà vuol dire avere dei guadagni. No, intanto hai degli asset patrimoniali che insomma non fanno mai male a un'azienda, no? A prescindere da quello che è il conto economico. Poi comunque lo riempi, come la Juventus lo sta riempendo, se tu fai uno stadio di proprietà che abbia le caratteristiche adeguate alle caratteristiche della società di cui tu sei proprietario, e quindi che abbia una capienza che sia compatibile con quella che è la domanda della tifoseria, puoi guadagnarci con qualche servizio attorno, con qualche convenzione, utilizzando lo stadio per fare i concerti o addirittura per offrirlo ad altri sport. In questi casi sono tutte cose per cui tu società di calcio ti fai pagare l'affitto, no? Beh, ma anche tutto intorno, sono conti di reddito. Adesso sono i comuni che negli stadi che fanno queste cose spesso riescono a fare dei soldi con questo, o attraverso delle convenzioni con le società di calcio direttamente, insomma. Ecco, ma tutto intorno, per esempio la Juventus ha una serie di servizi, no? Cioè sì, una quantità di negozi e cose di questo genere, però la sensazione e altri ne vuole fare, ecco. No? Adesso ne farà degli altri, insomma. Ma io mi ricordo qualcosa che mi dicevano appunto di questa storia qua del Real Madrid, che in realtà ha molti più tifosi ovviamente in Cina che in Spagna, no, cioè, infatti, questo è poi diventa poi se uno pensa che lo stadio di proprietà è l'unica formula per aumentare i ricavi, allora poi questo diventa un alibi, no? Per chi non riesce ad aumentarli in altri modi, perché poi ci sono tutta una serie di altre iniziative che le società di calcio italiane dovrebbero fare e che non riescono a fare. Una di questi è riuscire ad avere i tifosi in Cina piuttosto che in Indonesia, piuttosto che in Thailandia, piuttosto che e fare una in TV. Russia. E fare una televisione. Fare in questo caso. TV, fare dei web channel che raggiungano più facilmente queste aree, avere delle forme di interattività con queste tifoserie. Ecco, non è che allora la prima squadra a giocare. Ecco, scusa Gianfranco, volevo chiederti, ma allora non è che diciamo il calcio in Italia, e comunque i presidenti in Italia usano il calcio tutto in un altro modo, cioè nel senso che lo vivono e gli serve anche per fare altre cose? Sì, è praticamente un investimento pubblicitario. Per a livello di immagine personale? Sì, è un grande strumento di comunicazione, finora è stato così, insomma, o un giocattolo, no? Per cui tu ti paghi il divertimento tuo, di presidente, questo è il modello del presidente tifoso, oppure è propaganda, quindi c'è anche chi l'ha usato per la politica, è abbastanza segreta questa cosa. Sì, è una cosa che non si nota, tra l'altro. Sai che mi sfugge chi possa essere, sinceramente. Non riesco a capire. Però se fate una ricerca molto dettagliata. Adesso vado su Google. Ci pensiamo. Ecco. E poi c'è anche chi lo usa più semplicemente come un momento di comunicazione suo e di pubblicità per quello che è poi il suo business. Il dato di fatto però è che il calcio italiano è ancora troppo legato ai diritti televisivi. Voi nel libro dite il 60% degli introiti in Italia arrivano dai diritti televisivi, ad esempio la Bundesliga in Germania solo il 30% e la Liga Spagnola il 45%, e poi le entrate da stadio dal 96 al 2011 sono addirittura calate da 206 milioni a 197 milioni di euro. Quindi la gente va meno allo stadio, la guarda più la televisione, ma come si fa a invertire la tendenza? È complicato, perché è difficile, soprattutto nel momento in cui poi impoverisci anche la qualità dello spettacolo, perché sei costretto a vendere i pezzi migliori, per cui ormai è complicato. Però devi lavorare sugli stadi, insomma. Io penso che prima parlavo dell'alibi dello stadio di proprietà, nel senso che È vero che ci sono delle difficoltà particolari in Italia per costruirne di nuovi o anche per rilevare, come ha fatto l'Udinese, no? Dal comune il diritto di superficie, certo, per 99 anni, sì, per poi ristrutturare comunque in modo importante lo stadio che già c'era. Però se ci fossero più società che lavorano su questo, anche sugli stadi esistenti, per renderli un po' meno scomodi, per aiutatemi. Quella cosa lì, sì, quella cosa lì. E che ti rimane tra le tecnologie dentro. Sì, no, ma ti rimane tra i denti la crema chantilly, rimane sempre lì tra i denti, ed è un casino. Colomba la crema buona. E allora, un accenno che appena fatto nel libro, ma che andrebbe sviluppato, è che in realtà bisognerebbe trovare il modo di accendere la televisione negli stadi per portarci la gente. Cioè è assurdo che oggi chi fa tutta sta fatica per andare allo stadio, sì, con scomodità, non ci sono i trasporti pubblici, non sai dove parcheggiare la macchina, sì, c'ha freddo, spesso pigli la pioggia in testa, eccetera, eccetera, e poi alla fine hai molto meno di quello che sta a casa a vederselo davanti alla televisione senza togliersi le pantofole. Quindi non sai se devi telefonare a casa per sapere se era rigore o non era rigore, per sapere se un gol era entrata al pallone oppure no, se c'era un fuorigioco. C'è arrivato un SMS che ci dice: se volete vedere come si guadagna dallo stadio, venite a Reggio Emilia. Ne sai qualcosa? No, vabbè, ma Reggio Emilia è una... non vale? Che... No, non vale, è una squadra di Serie C, voglio dire... non regge l'impatto. È una cattedrale nel deserto. Sì, cioè, è stato... Poi se tu lo fai uno solo, in un posto solo, non può funzionare. Insomma, Perché ricordiamolo, comunque, Reggio Emilia è stato il primo stadio di proprietà italiano, però è stato un mezzo fallimento. Sì, è stato un fallimento, però tutta la società è andato tutto male, eccetera. Però io ripeto, guardate, non è la panacea lo stadio. Sì, certo. Io sono sicuro che si possono fare mille altre cose per aumentare i ricavi. Anche pensate, ma l'avete ricordato voi, che le società italiane dipendono per più del 60% dai diritti televisivi, eppure sono quelle che vendono peggio il campionato italiano alle televisioni estere. Anche su questo bisogna migliorare. Certamente, se poi tu vendi un campionato in cui ci sono delle partite che si giocano in uno stadio, lo chiamiamo stadio, quello di Cagliari comunque è vuoto, altre che si giocano su campi, come abbiamo visto quest'inverno, in autunno, ma anche adesso, come il campo di Napoli, ci sono a volte devono dipingerli di verdi i prati delle squadre di Serie A per far fingere che siano campi di calcio. No, anche perché poi, per televisione non si vede, per televisione si vede male, insomma, poi almeno il verde si capisce, insomma. Senti Gianfranco, no, Teutino, che vado sui campi, vedo che c'è la sabbia dipinta di verde. Sì. Certo. Ma lo fanno con lo spray, spero, tra l'altro, perché sennò un granello a testa è un po' dubbio. Quelli, quando le squadre, se voi notate, quando le squadre hanno i pantaloncini bianchi, poi ci sono delle macchie, esatto, che non sono macchie dell'erba, come succede ai bambini quando si rotolano, no, sono macchie di vernice. Esatto. Senti Gianfranco Teutino, passeremo qua tutta la giornata, ma non vogliamo inchiodarti qui da noi e soprattutto a Dai e Vai. Ti lasciamo andare a prendere il caffè, la mazza caffè, cosa che tu fai normalmente, tra le altre cose. Ti ringraziamo, la mazza caffè, infatti. Ti ringraziamo moltissimo per la tua disponibilità, ovviamente. Grazie. Abbiamo parlato del calcio al tempo dello spread e ne parleremo ancora, perché ovviamente il problema non è ancora stato risolto. Grazie, a risentirci. Buona Pasqua, grazie. Ciao. Anche a voi. A voi o a lui? A lui. Facciamo a lui, dai. Che... Ma anche a voi. Vabbè, non ti arrabbiare. Allo stadio è in costruzione la stazione TAV, il problema è il tempo. E stiamo parlando sempre di Reggio Emilia, perché sempre Sebastiano, l'ascoltatore, ci scriveva dello stadio di Reggio Emilia e dice che di fronte allo stadio stanno costruendo la stazione della TAV, dell'alta velocità ferroviaria. Il problema è il tempo. È il tempo. In che senso? Nel tempo, il tempo per la costruzione della stazione, immagino. Ecco, non lo sapevi, di la verità, che non hai capito. Sapevo, ecco, so, andrò a Reggio Emilia allo stadio fuori a vedere a che punto sono con la costruzione. 349-238-6666, 349-238-6666 per mandarci gli SMS, mentre invece allertatevi tutti quanti voi, perché tra poco sta arrivando ovviamente il meteo, quindi attenzione alla pioggia, al vento, al fango e a tutte le altre cose, ma dopo parliamo con voi direttamente, solo con voi che fate sport. Arriva il meteo. soffia nel fischietto con il telecomando. Allora balla per me Bellina balla, che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Balla per me Bellina balla, piangi sulla mia spalla, dai sfogo al tuo dolore. Balla per me Bellina balla, a lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Innamorata di quel biondo. Questo mi piace, questo. Sì, questo con la voce un po' impostata. Tutta l'estate sulla barca di Briatore. Balla, Bellina balla. Intercettata come un volgare spacciatore. Balla, Bellina balla. Falla pagare a chi ti ha spezzato il cuore. Balla per me, Bellina balla. Vabbè, dai, potremmo cantarla tutta, vabbè, comunque diciamo. Allora, cosa ne pensate degli americani a Roma? Beh, basta, non compro il Colosseo, perché il resto è tutto bene. Cioè, cioè, il turismo va bene. Marta, allora, cioè, intanto non ci costringere a pensare che è un optional in questo caso. No, invece quello che ci interessava era capire com'è il tavolo di biliardo che hanno trovato quelli dell'Under 21 a Bassano. Allo stadio Mercante di Bassano. Ecco. Lo stadio Mercante dove si è giocato lunedì scorso Italia-Ucraina, ricordiamo 1-0 con il gol di Ciro Immobile. Niente, l'ascoltatore che ci ha scritto al 349-238-6666 decanta le lodi del prato dello stadio Mercante, almeno così sostiene l'ascoltatore. 800-24-00-24 invece proprio con voi dobbiamo parlare, e proprio con voi che vogliamo parlare, lo diciamo per quelli che in questo momento sono riusciti in qualche modo a digerire tutto quello che hanno, si sono scofanati durante il pranzo pasquale e che in qualche modo vogliono fare un po' di sport, sì, sì. No? Vogliono in qualche modo agitarsi e quindi un modo per agitarsi è telefonare qui direttamente all'824-0024 perché vogliamo parlare con voi, voi che fate sport in qualsiasi caso, in qualsiasi modo, voi che in qualche modo praticate sport, voi che andate a, non so, a fare nuoto, ma non necessariamente in termini agonistici, voi che in qualche modo che andate in palestra, voi che avete comprato la ciclette, voi che avete comprato, voi comprate qualsiasi cosa, voi che fate sport, visto che stiamo parlando di calcio al tempo dello spread, vogliamo sapere lo sport al tempo dello spread, cioè quanto vi costa? Ma quanto vi è aumentato anche? Quanto vi è diminuito? Quanto, com'è la situazione dal punto di vista economico vostro? Sì, già, ma quanto vi è costato? Quanto, oppure che cosa avete tolto di questo durante lo spread? Cioè, siamo in crisi, tutti lamentano su questa storia della crisi, facciamo, verifichiamo se c'è veramente questa crisi. La crisi ha inciso sulla vostra quantità di sport oppure soltanto sulla vostra qualità? Nel senso che vedete ancora la tuta dell'anno scorso. Sì, sulle scelte. Magari uno ha deciso di evitare di andare a fare equitazione, ha iniziato a correre. 800 24 00 20, scusa, stai dicendo? No, al posto, andare, cioè, al posto del dressage vai, esatto, a fare, vai a fare la corsa? Forse la differenza, allora, di prezzo. La domanda è, primo, perché facevi il dressage? Esatto. La seconda è, fai subito la corsa e stai lontano dal dressage, insomma, in questo caso qua. Questo, insomma, è razzismo da parte tua. No, non è razzismo, è costo caro, cioè il cavallo costa, adesso non vorrei dirti. Avete comunque cambiato il vostro atteggiamento. Magari uno può dire, faccio dressage invece che fare 5 giornate tutti i giorni, vado a fare dressage, lo faccio soltanto 3 giorni il dressage, oppure vado a fare fitness. Quante volte vado a fare in palestra? Quante volte vado in palestra? 2, 3? Esatto. Prima andavo tutti i giorni, no? In qualche modo. 800-24-00-24. Se proprio non avete nulla da fare in questa domenica di Pasqua, no? Perché se avete qualcos'altro da fare, tanto ditecelo, perché cosa avete da fare, perché così a noi ci rende tutto quanto felici. Anche perché sono curioso di sapere cosa stanno facendo. Sì, ma che te frega? Sono curioso. Comunque ditecelo, però 824-0024, oppure se proprio siete timidi, al 349-238-6666, giusto? Giusto. Nel frattempo, mentre attendiamo le telefonate, perché può anche darsi che poi questi non hanno rinunciato assolutamente a nulla per quanto riguarda i loro sport, cioè sì, c'è la crisi, ma chi se ne frega, io continuerò a imperterrito a correre, oppure faccio uno sport che non mi costa e quindi mi costa solo fatica. Qual è quello sport più economico? Quello sport più economico secondo me è la corsa. La corsa, un paio di scarpe ti durano qualche mese. No, i 100 metri sono costa. Ah, quelli peso. Cioè fai proprio 100 metri, poi togli le scarpe, quelle lì. No? No. Quelle durano tanto, cioè se fai solo i 100 metri. Fai solo 100 metri per botta. Poi cioè, le cambi, ti metti mocassini. No, però certo. Se tu devi fare la maratona, la scarpa dopo 42 km di corsa, come è conciata? No, non è conciata malissimo. Cioè la scarpa, però... quante maratone può reggere una scarpa come quella? Cioè un po' decente. Una decina, secondo me. 10 maratone? Sì, cioè fa 420 km? Sì, di corsa? Sì, di corsa, sì. Ma perché pesi poco allora? Perché peso poco, sono leggerissimo. Voglio dire... Tennis, per esempio. Beh, tennis è costoso. Tennis è costoso e tu hai rinunciato al tennis. Perché le racchette costano tanto, perché i campi da tennis costano. Esatto. Cioè, no, ma anche la racchetta devi prendere. Adesso accantoniamo il problema che non avete più amici, no, in questo caso qua, no? Siete soli. Esatto. E quindi non puoi giocare contro il muro da solo. Beh, no, non è vero. Giocare a muro è un grande allenamento per i tennisti, lo sanno tutti coloro che giocano a tennis. A muretto, insomma, in questo caso qua. Ricordiamo che il muro non sbaglia mai e quindi è sempre colpa tua. Assolutamente. Però ecco, il tennis, quante volte vai a giocare a tennis? Beh, una volta alla settimana. Una volta alla settimana, sì, adesso non vai di più. Non di più. E dice, no, ma guarda, c'ho male alla schiena. È un po' come il calcetto. Trovi delle scuse. Quanto costa, per esempio, andare a giocare? Un campo di tennis, quanto costa? Ma credo, io non lo so, perché non gioco a tennis, ma sarà, penso, un 20-30 euro all'ora. Vabbè, calcetto, visto che è calcetto. E calcetto costa a Milano 66-70 euro, 75 euro all'ora. Ovviamente va diviso in 10, quindi sono circa 7,50 euro è una sciocchezza. Sì, poi devi andare a mangiare la pizza al trancio. Devi andare a mangiare la pizza con gli amici. E quindi sono 10, quanti sono? No, 50 euro? Sì, ti van via un 20 euro per una serata di calcetto. Ecco. Quanti 20 euro 20 a serata? Euro. Sì, perché è un 15 euro per la pizza, poi il calcetto, 12,50 euro. Quindi cosa fai una volta alla settimana? Una volta alla settimana, 20 euro, sono 80 euro al mese. Ma hai saltato qualche settimana? No, salta già? No, te? No, secondo me non credo, il calcetto non riesce a reggerlo. Perché le scarpe? Le scarpe per il calcetto? Le scarpe di calcetto ti durano 2 anni. Se giochi una volta alla settimana ti durano 2 anni. Poi le magliette, quelle che trovi, che rubi a destra e manca. Sì. Poi si usa le pettorine, fai la colla, la colletta fra tutti quindi gli amici poco. Della squadra. Vabbè, insomma, quello quindi... lì. Allora, voglio dire, allora che cos'è? Basket. Campo della palestra per giocare a basket. Quella costa, secondo me la palestra costa. Quella costa. Sì. Qualche un buon 100 euro all'ora ti viene a costare. Senti, intanto ci è arrivato un SMS al 349-238-6666 che ci dice lo stadio di Arechi, di Salerno. Sì, Arechi, lo stadio Arechi, sì. Costruito nel 90, 35.000 posti, ma verso in condizioni pessime. Lotito vorrebbe prenderlo in gestione, ciao. Tommaso da Salerno. Tommaso da Salerno, cioè sì. Questo caso. Sì, è vero, lo stadio di Arechi di Salerno non è messo benissimo. Tra l'altro un tifo particolarmente caldo e ben organizzato, quello degli ultra del Salerno, che sono famosi per le loro coreografie. Sappiamo che Salerno, la Salernitana, è di proprietà di Lotito, il presidente della Lazio, anche la Salernitana, e vorrebbe prendere lo stadio in gestione, ma glielo danno, si vede. Ecco, vabbè. Intanto, vabbè, Max, se non hai proprio niente da fare, evita di mandarci questi SMS, è del tutto inutili. Superfluo, se lo volete ve lo diciamo. Io direi di non dirlo, Sergio. Io mi sento che in alcuni casi bisogna avere la forza morale di non dirlo. Alessandro, pronto? No, è caduto. Se n'è andato via. Non vuole entrare, ma nel senso che non vuole entrare. Eccoti qua. Ciao, Alessandro. Ciao, buongiorno. Eccoti qua. Come stai? Tutto bene? Bene, tutto bene. Personal trainer, giusto? Personal trainer, grande multinazionale. Sì, adesso non entriamo nel merito di dove, che non è tua, non è tua la multinazionale in questo caso. No. Ecco, questo, ecco. Allora, cosa cioè, tu avverti la crisi in qualche modo lì? Allora, devo dire la verità, no. No. Sì, no. Però, diciamo che... Sì o no? Adesso non essere confuso, per te. O sì o no? No, no diciamo no. di no. Ecco. No. Diciamo di no perché il personal trainer, diciamo, è una cosa che non è solo per la forma fisica, anche che ha problemi di riabilitazione. Post-traumatico. Quindi noi lavoriamo anche su questo e chi ha esigenza di lavorare su questo effettivamente ha proprio bisogno di un personal trainer. Però qui stiamo parlando di situazioni particolari, però in generale all'interno della palestra c'è una flessione o non c'è nessuna flessione? No, sinceramente no. Io non faccio questo mestiere da oltre 20 anni. Sì. quindi devo dire la verità che ultimamente no, non posso dire che... E quindi tu mi stai dicendo nella sostanza che l'immagine comunque è privilegiata. Privilegiata. Sì. Io sì, anche parlando con i miei clienti, per loro è la priorità assoluta anche di star bene. Anche, quindi il vostro problema non avete neanche abbassato delle tariffe, tutto normale? No, tutto normale. Io sinceramente da un po' di anni tengo sempre le stesse tariffe e praticamente nessuno neanche mi chiede uno sconto, un qualcosa. Una volta tempo fa, tra l'altro neanche tanto lontano, si diceva ci sono tutti i ristoranti pieni, quale crisi? Mi viene da dire tutti quanti, guardate, le palestre pieno, guarda, dov'è la crisi in questo caso? No, non è vero, la crisi c'è, però in questo caso c'è questa attenzione verso quelli che curano l'immagine. Fisico, certo, molto, sì, la verità molto. Ma il target diciamo che medio alto. Ma prima avevi più richieste di adesso oppure no? Cioè magari dovevi rifiutare qualche richiesta? No, rifiutare no. Ma quindi è proprio rimasto costante? Sì, abbastanza costante. Poi ci sono periodi, logicamente, ma questo c'era anche prima. Sì. Quindi periodi primaverile, estivo, diciamo, dove c'è più richiesta. Va bene, ti ringraziamo Alessandro, grazie. Buona giornata, grazie a voi. Ciao, lui ha detto però una cosa interessante, sì. Cioè il target, insomma, un target un po' particolare, un target alto e quindi in qualche modo influiva su tutto questo. Ricordate 349-238-6666, qui hanno dovuto, tra l'altro, ci hanno già dato scarpe da corsa €150 per 500-600 km. 500-600, se togliamo l'allenamento, se fossero solo le maratone, 500-600 km sono più di 10 maratone. Attenzione invece, Carlo da Torino, al tempo dello spread che schizzano, ho preso la decisione poco sofferta di ridurre Sky, eliminando il calcio, meno spese, soprattutto mi libero dei telecronisti diventati insopportabili. Bastava comunque abbassare, cioè voglio dire, adesso non creiamo delle scuse. Dai e vai, non è solo calcio. (800) 24 00 24, lo sport al tempo dello spread e soprattutto che cosa avete rinunciato in questo periodo di crisi, quale sport avete ridotto o se avete proprio cambiato sport, insomma quanto sta incidendo questa crisi sul vostro atteggiamento nei confronti dello sport. E giustamente uno dice intanto ho cominciato a eliminare il calcio da Sky in questo caso, però Antonio da Pordenone ci ha mandato un sms, sì, interessante. È un insegnante di taekwondo, un padre rimasto disoccupato voleva rinunciare a portare i figli in palestra e lui, che è l'insegnante di taekwondo, ha preferito farli venire gratis a spese della società. Ma che cosa, né? Una baiana e un carioca. Questo guarda, è veramente una cosa strana, eh? Attenzione, sì. Ho dovuto rinunciare alla mia passione per i track days. Scusa, i track days sono quelle giornate che passi in pista a girare con la macchina. Sì, calmati, so che ti stai già agitando, no? Venduta la Porsche che era sport e passione, vi assicuro che girare al Nürburgring, a Salzburg o a Adria o sull'autodromo di Franciacorta, sì, meglio Nürburgring. Beh, anche l'autodromo è girato a Franciacorta, faticoso ma divertente, con un treno di gomme, che un treno di gomme erano €800 penso, sì, qualcosa del genere, ogni 2-3 mesi, insomma ho dovuto rinunciare a questa sua passione, quindi bella passione abbandonata a se stessa, insomma. Anche perché normalmente quando vai a girare in queste piste c'hai le gomme speciali per avere una maggiore tenuta, ogni 2-3 mesi spendere €800 per cambiare le gomme era una spesa. Questo era Stefano sul 349 238 66 66. 800 24 00 24 800 24 00 24. Ciao Giacomo, pronto? Sì, pronto. Ciao, allora, eccomi. Dici, allora, tu che cosa hai rinunciato? Non ho rinunciato a niente perché io vivo in Riviera. Quindi io vivo ad Alassio, possiamo andare benissimo a correre in bicicletta, possiamo fare tutte le attività aerobiche senza problemi particolari. E lo sport, secondo me, basta volerlo fare. Io pratico tutti gli sport, dal tennis allo sci a altro. La mia moglie gioca a golf, quindi basta ridurre un pochettino, al limite degli sport più costosi, ma gli sport aerobici non hanno nessun problema. Ecco, però Di questo volevamo sapere, tu hai detto tennis, hai detto anche altri tipi di sport, però quelli lì hanno dei costi oggettivi. Sì, ma... O gestisci tu? Si trovano, i prezzi sono rimasti stabili. Sì. Cosa costa un'ora di tennis? Personalmente vado in bicicletta e vado a correre a piedi, non c'è stato il minimo cambiamento. E basta volerlo fare. Perché usi la vecchia bicicletta che c'avevi già no, prima? No, io ho una bicicletta di 4 anni fa, perfetta, l'avevo comprata, è bellissima, non vedo perché cambiarla a tutti i momenti. Infatti, adesso, Giacomo, capisco che il paese è aggressivo in assoluto, però no, stavamo dicendo la stessa cosa, usi la stessa bicicletta che usi da 4 anni, quindi non l'hai comprata, no? E soprattutto, voglio dire, la corsa non ti cambia. Però prima hai detto tennis, tu continui sì. a giocare lo stesso? Non posso più giocare per un problema alla caviglia, ah, però... I costi sono limitati. Scusa Giacomo, problema alla caviglia più o meno di Giovinco, per capire tanto riferimento? È un problema perché io faccio il medico chirurgo e il piede mi serve. Sì. Quindi o mi faccio operare o vado a giocare a tennis. Invece in bicicletta non ho nessun problema. No, operativa che è meglio, insomma, cerca di essere utile in questo caso. Grazie Giacomo. Sono molto utile. È stato bello. Buona serata a tutti. Ciao, grazie. anche a te. 349-238-6666 per voi che avete... come dire, siete timidi e non volete partecipare insomma con la vostra voce, direi per quelli più radiofonici 824 0024 invece possono direttamente telefonare a noi e raccontarci delle cose. Se non telefonate vi faccio ascoltare le interviste fatte fuori dallo stadio ieri da Luca Gattuso a Inter Juventus dopo la partita però. Diverso. L'ho appena detto al termine della partita, cioè fuori dallo stadio al termine della partita, sennò dovremmo fare risentire con quelle di prima. Ecco, quindi questo lo prendete come una minaccia? Sì, prendetelo come una minaccia, insomma, questo per noi non cambia moltissimo. E ricordiamo appunto i numeri a questo punto, che sono sempre gli stessi: 824 0024 per quanto riguarda le telefonate, 800 24 0024. Mentre gli sms 349-238-6666 l'avete voluto voi. Cosa è mancato all'Inter oggi? All'Inter è mancato la spinta di Cassano che è un peso morto e ci manca una punta veramente come si deve. Salve, contento? Sì, molto. Ma si aspettava una partita così o diversa? No, più bella sinceramente. Chi è che ha giocato meglio dalla Juve? Mi è piaciuto Marchisio e Pirlo. Cos'è che non è andato oggi nell'Inter? Quasi tutto. Ma chi è che ha sbagliato di più, il giocatore o l'allenatore? Fra uno e l'altro siamo alla frutta. Confermi, son fermi, no? Non corrono. I palloni stoppano il pallone, si devono girare e subito lo portano via perché... Sono fermi, fermissimi. Contente? Certo. Felicissime. Certo, direi. Aspettavate così? Io sì, assolutamente. Ci credevamo. Chi è che è stato il migliore della Juve? Pirlo, a me Pirlo. Piace Pirlo. Pirlo decisamente è un grande. Adesso la Champions, basta che il campionato no. Adesso la Champions, speriamo spacchiamo bene. Il Bayern. Inter Club il principe? Sì. Di dove? Agrigento. Ti è mancato il principe oggi? Beh, decisamente. E ci mancherà ancora per tanto, purtroppo. Beh, diciamo che voglio dire, io vorrei sentirle ore. Ti ringrazio per avermi dato tra l'altro l'MP3 per queste interviste. Peccato, così perché... allegre, così spensierate, no? Cioè, voglio dire, ho sentito questa che ha detto spacchiamo il Bayern. Ha detto spacchiamo il Bayern. Ha infatti detto io... spacchiamo il Bayern, ma sai quanto porta sfiga questa frase qua. Ma infatti l'ho voluta mettere apposta. Mamma per mia. I cari amici juventini, sentite le vostre compagne di tifo come sono convinte. Adesso mamma spacchiamo mia. Il Bayern. Sì, ti ringrazio per questo tuo intervento. Gian Claudio, pronto? Eccoci. Allora, istruttore di arti marziali, giusto? Assolutamente sì. Ecco, allora raccontaci bene, cioè la crisi la senti tu? Immagino di sì, ma proprio perché sono in questo mondo da tantissimi anni ed è cambiato perché l'evoluzione nel tempo ha fatto sì che si sia ramificato tutto questo sport, che non è più disciplina ma è molto sport da combattimento. Sì. E poi effettivamente negli ultimi tempi, noi che viviamo in un ambiente da, non so, 5.000 atleti, 4.000 atleti quando si muove, si è radicalmente abbassato il movimento degli atleti, quindi effettivamente sì, c'è un po' di crisi. C'è la crisi, insomma, la senti? Sì, io nel nostro settore, immagino sì, anche perché facciamo parte di una federazione molto ampia, molto aperta, quindi sì. Ma voglio fare un corso di karate, cosa mi viene a costare? Guarda, io per il karate avrei carate, dei problemi a dirti quanto cosa, ma credo che sia poi più o meno in linea. E quali arti marziali sai invece, che conosci? Insomma? Pratico Kung Fu vietnamita, una diramazione del Kung Fu vietnamita che si chiama Lao Long Dao, e quindi insomma, cioè, però la mensilità è di 40 euro. Io lo mese, so, quindi... scusa Gian Claudio, guarda, io lo so che te l'avranno fatto 500.000 volte questa battuta, ma non posso non farla. Vietnam del nord o del sud? Guarda, perché quante volte te l'hanno fatta questa battuta? Sempre, sempre. Migliaia. Ma è troppo bene. Nella storia di questa disciplina, come tutte le arti marziali che insomma abbiamo capito e amato da questo Oriente fantastico, e allora si scoprirebbero tantissime belle cose. Ma quanto costa? Quanto costa? Ti ripeto, la mia mensilità è di un 40 euro al mese e insomma credo che sia alla portata di tantissimi, come credo anche così nel karate, nel judo, quindi non è tantissimo, una spesa abbastanza irrisoria. E poi c'è all'interno una disciplina, una marzialità, un agonismo e una preparazione atletica, insomma, tu non hai avvertito comunque nessuna flessione, ho capito bene? Sì, quest'anno effettivamente sì, però dai. Ecco, c'è stata una flessione? Quindi sì, in questo caso, nonostante poi la cifra sia una cifra abbastanza contenuta. Sì, abbastanza contenuta, alla portata di tanti, però lo si vede sempre come picchiarsi, secondo me, come uno scontro fisico. Invece però questo è un problema di comunicazione delle arti marziali, ti ringrazio. Non è un problema dello spread. Grazie, ciao, a presto. Grazie. Il mio sport del cuore ha subito dei tagli drastici. A causa dello spread e del costo esorbitante della benzina, la mia moto esce dal garage ormai solo in primavera inoltrata e risparmio anche sull'assicurazione. Questo è Gilda, che ci scrive al 349-238-6666. Detto questo, Gian Claudio non ha risposto se è Vietnam del Nord o del Sud. Non ha risposto, dai, ma al solito c'è omertà nel mondo delle arti marziali. Ma no, ma che omertà, cioè li avevamo fatta 150.000 volte questa domanda, dai, questa battuta. Milena da Belluno che dice: vado a correre e sciare, ma con le pelli. E le pelli di foca, sì, lo sci alpinismo. Certo, tutto gratis, tranne l'attrezzatura che possiedo da 5 anni, quindi in realtà non si capisce se ha ritirato fuori quell'aspetto oppure è rimasto con Mentre Ale e Piero, che non è Ale del Piero, ma è Ale e Piero, dicono: siamo una coppia di subacquei, ma viviamo in Valle d'Aosta. Mamma mia, costoso, mi viene da dire. Esatto, rispetto a 3 anni fa quando andavamo al mare ogni domenica, ora passeggiamo amenamente nei moschi intorno a casa. Casa, vestiti con la muta, la maschera e il boccaglio. No, no, questo non no. C'è scritto così, dai, tratta bene, insomma, che modi sono. Ci dispiace Ale e Piero, devo dire che la coppia è perfetta, devo dire, Ale e Piero. Sì, non si capisce cosa facciano in Valle d'Aosta. Cosa vuoi che facciano in Valle d'Aosta? Con le pinne vivono, in mezzo ai boschi. Ci vivono in Valle d'Aosta, no? Voglio dire, da questo punto di vista. Bene, noi possiamo soltanto prendere al volo. Arturo, pronto? Eccomi qua. Era soltanto che siete. Ecco, fermati. Grazie, ti ringraziamo Arturo. Ti volevamo soltanto salutare e restare lì. Resta lì con noi, magari ti richiamiamo perché adesso sta arrivando il GR e noi dobbiamo andare alla linea del GR. Resti con noi Arturo, mi raccomando. Lasciamolo arrivare, io sono qua, non mi muovo. E certo, ciao. D'altra parte, comunque lui ha già fatto un sacco di robe. Dai e vai. Non è solo calcio. Abbiamo lasciato Arturo e abbiamo chiesto a Arturo pazienza per riprendere la sua telefonata. Stavamo parlando dei costi dello sport e di quanto costa lo sport durante la crisi e che cosa hanno rinunciato i nostri sportivi, i nostri ascoltatori sportivi. Arturo da Lecco, anzi in provincia di Lecco, pronto? Sì, eccomi qua. Allora, tu fai ben 2 sport, vedo, tra le altre cose, giusto? Sì, io ne facevo diversi. Quali? Però adesso... E perché bisogna restringere un po' sui costi, e perché la mia età oramai, però non mollo mai, perché 3 volte alla settimana vado a correre qua nei boschi sotto casa mia, e lì costa poco perché, come dicevate prima, sono le scarpe, però le scarpe basta trovare il momento giusto, No, io avevo un paio di scarpe ormai malandate. Arriva il compleanno, dico ai miei figli: ragazzi, fatemi un bel regalo, scarpe da correre. E quindi? Loro me le regalano, così anche lì una spesa in meno. E vai, no? Anche in bicicletta, giusto? Sì, però adesso c'è mia moglie che la bicicletta me la proibisce, perché pensa sempre alla testa che vado a sbattere sull'asfalto. Però faccio delle camminate in montagna quando arrivo il bel tempo, e allora... Quanti anni hai, però, Arturo? 81, hai capito? 81 anni. Eh? Ah, sì, però. Complimenti, Arturo. Complimenti. Fortunatamente sto bene. Allora, stando bene, lo sport è salute, perché io sono convinto che più che molte medicine, lo sport veramente. Io ho anche una cardiopatia, però curata bene, mi permette di fare quello che voglio. Con calma, mi raccomando, Arturo, grazie, buona Pasqua, a presto. Buona Pasqua, aspetta un attimo che c'è qua una signora. Cioè, viva le donne! Viva le donne, sempre. Certo, cioè, questo è proprio in assoluto, proprio un must, anche la trasmissione è proprio votata anche a questo. Grazie, a presto. Era il titolo che volevamo dare, possiamo rivelare questo segreto, volevamo chiamarla Viva le donne, poi abbiamo scelto Dai Vai. Ecco. Mi sembra veramente brutto questo confronto, e soprattutto tra i due titoli, e ti ringrazio, perché io passo velocissimo a trattare invece un altro tema, che è quello di scienza e sport, e lo leggo proprio il sottotitolo: da giovedì 28 marzo a lunedì 1 aprile, quindi ancora anche domani, durante le vacanze pasquali, al museo uno speciale programma di attività interattive per scoprire quanta scienza si nasconde nei gesti sportivi. Stiamo parlando del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica qui a Milano, quindi dovrete anche spostarvi un po' se proprio volete venire a vedere. Noi andiamo direttamente a parlarne di questo tema. Con chi? Ne parliamo con il direttore educational del centro di ricerca del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, Maria Xantudaki. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Buongiorno. Senta, in che cosa consiste questa offerta che avete programmato per il periodo pasquale, scienza e sport? Perché è un campo molto largo. È vero, è un campo molto largo, e questa volta abbiamo voluto vedere la scienza da un punto di vista diverso, forse un punto di vista che uno non si aspetta, che è quello dello sport. Quindi andiamo a guardare tre sport diversi, che sono il baseball, il pallacanestro e ovviamente il tennis, con delle attività sperimentali per vedere un pochino quanta scienza c'è in questi tre sport. E quindi, che cosa si trova? Cosa trovano? Cioè, io vengo lì, che cosa trovo praticamente? Allora, con il pallacanestro e col baseball noi invitiamo i nostri visitatori, sia grandi che piccoli, a giocare con pallacanestro, giocare con il baseball, cercando appunto di battere la pallina dello baseball, e cercare di osservare i movimenti, cercare di capire com'è che dobbiamo fare per andare più veloci, per andare più lontano, per fare una traiettoria che va al punto giusto. Quindi c'è scienza anche nel gancio cielo, no? Cioè o nel tiro da 3 metri nel basket. Quindi voi studiate e fate capire la traiettoria, e questo ho capito bene? Esatto, noi studiamo la traiettoria, noi studiamo la velocità, studiamo i movimenti del corpo per poter capire che tipo di scelte dobbiamo fare. Anche i materiali con i quali una pallina è fatta hanno un ruolo molto importante, la posizione del corpo ha un ruolo molto importante, i movimenti del braccio hanno un ruolo importante. Quindi sta parlando in questo caso del tennis, in questo caso, o tutti. Ma in realtà col tennis facciamo un'altra cosa: andiamo a costruire delle racchette. Quindi invitiamo il nostro pubblico a usare tantissimi materiali diversi e costruire una loro racchetta. Allora, come deve essere fatta questa racchetta? Con che tipo di materiale? Con che tipo di dimensione? Cose morbidi, cose dure? Perché l'uno piuttosto che l'altro? E poi andare a provarla giocando tennis o anche giocando a ping pong, in questo caso, per poter capire le scelte, appunto, in questo caso del materiale, le scelte delle dimensioni, le scelte poi dei movimenti che uno fa usando la pallina. Qual è il materiale migliore? Adesso ce lo dica, così, tra le altre cose, così. Cioè, c'è un materiale particolare che per le racchette? Ma da quello che ho visto anch'io, perché in realtà devo dire che non avevo mai aperto una racchetta per capire come è fatta dentro, c'è una combinazione fra materiali duri e anche materiali elastici, una sorta di gomma, non saprei neanche come chiamarla, devo dire, dal punto di vista tecnico. Vabbè, insomma, e sul baseball invece parlava di palline anche, su come vengono fatte queste palline. Sì, come sono fatte le palline. Più che altro la cosa interessante lì è che lo staff del Museo della Scienza fa questa attività in collaborazione con degli allenatori professionisti. Noi tutto il programma lo offriamo in collaborazione con il CONI Lombardia, quindi insieme a questi allenatori invitiamo le persone a lanciare la palina, a provare a farla colpire con il come si chiama, non saprei dire neanche, il con la mazza stava parlando. Ecco, bravissimo. Spiace, io non sono madrelingua italiana, ogni tanto le parole. No, ma anche noi che siamo di madrelingua italiana non riusciamo a capire che cosa vogliamo dire spesso. Parla meglio di noi l'italiano, dottoressa, guardi, vada tranquilla. Ecco, quindi vabbè, insomma, quindi c'è questo aspetto scientifico, ma immagino, cioè, ormai siamo a Pasqua, possiamo già fare un piccolo bilancio, sono arrivati molti ragazzi e è venuta molta gente? Sì. Sì, è arrivata moltissima gente. Ieri, se non mi ricordo male, abbiamo avuto solo ieri 2500 persone. Poi, ovviamente, oltre a queste attività sulla scienza e lo sport, abbiamo anche un'altra attività su come mangiare per chi fa sport nel nostro laboratorio di alimentazione. E poi ci sono tanti altri laboratori, tutto il museo con le sue collezioni da vedere. Quindi possiamo dire che anche per 2500 persone possiamo dare delle esperienze quindi diverse. Quindi, dottoressa, uno viene lì, si fa una racchetta, fa due palline e fa due tiri a canestro e poi si mangia, insomma. Poco, ma si mangia. Sì, possiamo dire, fa questa cosa senz'altro con baseball o con la racchetta, quello che vuole, e poi va al laboratorio di alimentazione per scoprire un pochino. Ah, non si mangia. No, non si mangia nel laboratorio di alimentazione, però si sperimenta col cibo. La ringraziamo moltissimo. E ricordiamo che domani è ancora aperto, c'è ancora la possibilità di far scoprire questi aspetti. Fino a che ora domani? Fino alle 6.30, 18.30, e io vorrei dire anche che Scienza e Sport è il tema che proponiamo quest'estate per il nostro campus estivo, per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, quindi nei mesi di giugno e luglio abbiamo alcune settimane dedicate a questo tema, Scienza e Sport, quindi chi vuole trascorrere con noi una settimana con il campus estivo, allora invitiamo, tutte le informazioni si trovano nel nostro sito. Invitiamo ad andare a vedere. La ringraziamo moltissimo. E io vi ringrazio. A presto. Dai e vai. Non è solo calcio. Cerco di mettere una musichetta un po' così, un po' brillante, perché così, cioè, perché poi uno si abbiocca, diciamocelo chiaramente, cioè uno è lì, dici dopo il giorno di Pasqua è un po' un giorno difficile anche per lo sport. Ti ricordi i nostri subacquei valdostani? Sì, me ne ricordo, figura, quelli con le pinne in mezzo ai boschi. Esatto, ci hanno scritto l'altro giorno, per la disperazione abbiamo fatto un pupazzo di neve con pinne e maschere. Vedi che non c'era andato distante. Poi lo spread l'ha sciolto, vabbè, questo è un altro problema, questo è un altro discorso, vabbè, insomma. Bene, allora parliamo di un caso un po' particolare, di un meccanismo un po' strano, non tutti i cittadini sono uguali rispetto alla legge. Che accusa. Questo è pesante. Vai a casa. No, scusa. Resta qua con noi. A casa. Parliamo di cose serie. Ci sono dei cittadini che a un certo punto non hanno più diritto di parola. No, in questo passaggio. Beh, sì. Sto esagerando? Sì, forse un pochettino. È proprio un filo. Cerco di attirare l'attenzione, perché la gente, cioè, si è scofanata qualsiasi cosa a mezzogiorno. Se tu non li provochi, dici, ma cosa sta dicendo? Così si arrabbiano, in questo caso no. Però parliamo di che cosa? Di che cosa? Del fatto che gli arbitri non hanno diritto di parola, ma non hanno neanche diritto di web. A quanto pare sì. Abbiamo capito bene. Esatto, perché c'è un sito che si chiama www.arbitri.com che raggruppa un pochettino questi appassionati che sono migliaia in Italia, perché non dobbiamo considerare soltanto gli arbitri di Serie A, che sono quelli che vediamo ogni domenica, ma anche di tutte le categorie inferiori. Sono migliaia gli arbitri in Italia che ogni sabato, ogni domenica arbitrano, sono riuniti in questo sito www.arbitri.com. Fatto sta che il responsabile del sito è stato condannato dall'Associazione Italiana Arbitri, si chiama Alessandro Bognetti. Ecco, noi non parliamo con lui. No. No, perché non ha diritto di parola. Perché non può parlare, cioè, capito? Noi dobbiamo parlare con Francesco De Cesare. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a voi e auguri. Vedi com'è avvocato. È avvocato dentro. Prende le distanze, cioè, capito? Non è che... Anche poi... il giorno di Pasqua. Anche il giorno di Pasqua. È una roba, una vita d'inferno, cioè, voglio dire, una cosa. Francesco di De Cesare è l'avvocato di Alessandro Bognetti, che è il gestore di www.arbitri.com. Noi abbiamo visto un po'... Scusa, hai mangiato bene? Io ho mangiato benissimo, però vi devo già correggere, mi faccio l'avvocato fino in fondo. Sì, sì. Alessandro non è più da tanti anni gestore del sito arbitri.com, è stato il fondatore del sito, questo sì. Sì. Però non è più gestore di questo sito da diversi anni. Però nella sentenza c'è scritto che lui è stato espulso con il ritiro della tessera federale dagli arbitri per le vicende connesse alla gestione del sito arbitri.com, giusto? Sì, è una perifrasi per associare il nome di Alessandro ancora adesso alla gestione del sito, ma di fatto, e anche da un punto di vista giuridico, lui non da diverso tempo non è più gestore del sito, avendolo ceduto ad altra persona. Mm. È stato fondatore e gestore del sito per qualche tempo agli inizi, quando ancora non poteva sospettare che il regolamento AIA lo vietasse, ed effettivamente poi è andato incontro a una prima condanna e poi a una seconda condanna, che è appunto quella che ricordavate voi del ritiro tessera, che sostanzialmente corrisponde alla radiazione. Mm. Nel regolamento AIA non si parla di radiazione, ma certo, di ritiro tessera, quindi di espulsione, la stessa cosa. Ecco, lui è stato espulso perché era collegato a questo sito, giusto? Sì, è stato espulso perché è stato il fondatore di questo sito e poi la Procura federale dell'AIA e anche gli organi giudicanti hanno ritenuto che non fosse stata dimostrata da lui una completa dismissione del sito, cioè lo hanno ancora ricollegato al sito e quindi hanno deciso di espellerlo, quindi di ritirargli la tessera. Sentenza che poi è stata riformata, sì, sia pur parzialmente, dal Tribunale Nazionale di Arbitrato Sportivo del CONI, che ha commutato la pena dell'espulsione in una sospensione per 2 anni. Ecco, perché gli arbitri non possono avere un'attività pubblica sul web, è questo il meccanismo? A dire il vero, il regolamento è un pochettino più complesso. Tenete conto che il regolamento AIA è cambiato da poco tempo, è cambiato da poco meno di un anno, ma comunque sia nella vecchia che nella nuova stesura era fatto divieto agli arbitri di rilasciare dichiarazioni che avessero attinenza con l'attività, con le partite arbitrate. Sì. Nel nuovo regolamento effettivamente è fatto divieto agli arbitri di iscriversi con nickname, quindi di non poter essere riconoscibili, partecipando appunto a siti, forum che abbiano attinenza con il mondo arbitrale. Però diciamo è un regolamento un pochettino anacronistico, se vogliamo, perché effettivamente nell'era della comunicazione globale forse la componente arbitrale è l'unica del mondo calcistico che ancora non abbia facoltà di parola. Certo, anche perché, scusa, nel sito arbitri.com, all'interno del forum, siamo andati a sbirciare, ci sono delle domande tipo: come vi rivolgete ai vostri giocatori? Date del tuo o del lei? Oppure... Piano con le domande adesso, non cominciamo a fare queste... No, eppure, quanti fischietti avete di che colore? Quindi sei pazzo? Cioè, la privacy qua doveva finire. Lo so, cioè, però ci sono domande e quesiti di questo tipo. Oppure, dove mettete la monetina del sorteggio per non perderla mentre arbitrate? Questo è intollerabile, dove mettere la monetina. E quindi si presuppone che chi partecipa a questa attività siano degli arbitri, giusto o no? Sì, sì, assolutamente sì. È un sito che si occupa anche di altri argomenti. Io ho sempre avuto il gusto di dire ad Alessandro che lui ha precorso i tempi di Facebook, costituendo una rete di contatto tra arbitri prima ancora che appunto Facebook si diffondesse in modo così evidente. Beh, ma lì era una forte esigenza, visto che non possono parlare con nessuno, ogni tanto almeno si parlano tra di loro, questo è il concetto, no? Certo, assolutamente sì, anche perché molto probabilmente ci sono anche arbitri comunque famosi che partecipano anche, ovviamente noi non possiamo saperlo, perché ecco, l'altra cosa importante è questa: magari chi ci ascolta da fuori può pensare che sia un sito dove si fa della diffamazione. Se così fosse, il sito sarebbe veramente perseguibile, perché gli ambiti della giustizia sportiva e della giustizia penale sono due ambiti ovviamente molto distinti tra di loro, quindi chiaramente se sul sito qualche utente, che sia arbitro o che non sia arbitro, dovesse diffamare qualche altro utente o comunque qualche persona, ovviamente sarebbe perseguibile. Non avremmo telefonato, diciamo, se ci fosse diffamazione, non c'è problema da questo punto di vista. No, per capire bene adesso, come va avanti la situazione? Lui rimarrà in che condizioni? In questo limbo in cui non potrà parlare, non può fare dichiarazioni. E non può arbitrare, tra l'altro, perché è sospeso per 2 anni, giusto? Per quanto tempo? Alessandro, al momento no, non può arbitrare perché è sospeso per 2 anni, anche se comunque la sospensione è parzialmente già scontata. E lui, ripeto, non è più intestatario, non è più però che cosa succederà adesso? Bisogna aspettare i 2 anni, punto e basta? Bisogna comunque sì, certamente attendere la fine della squalifica. Immagino che il sito adesso sarà, voglio dire, probabilmente sarà pubblicizzata una sua evidente cessione, ma ripeto, al momento il sito è intestato ad altra persona che non è Alessandro, non da oggi, da tanto tempo. Quindi io credo che sarebbe opportuna una piccola modifica regolamentare, che nell'ambito del rispetto ovviamente che è dovuto a tutti coloro che fanno parte del mondo arbitrale, dia comunque la possibilità agli arbitri di potersi esprimere. E potersi esprimere non significa, secondo me, andare in televisione dopo una partita arbitrata per dire qui ho fatto questo, qui ho fatto quello. È difficile arrivare a quello. Certo. Però dare la possibilità agli arbitri di dirsi dove mettono la monetina del sorteggio, come dicevate voi prima, oppure quanti fischietti hanno, io credo che sia anche un modo per avvicinare i ragazzi a questo mondo. È una sezione virtuale, forse potrebbe anche far le veci delle sezioni. Diventa arbitro, non diventi Marines, insomma, è questo il concetto. Assolutamente sì, tanto più voglio dire che la nostra Costituzione tutela il diritto di espressione, libertà di parola, libertà di espressione. Avvocato, noi la lasciamo andare perché è Pasqua e quindi la lasciamo andare tranquillamente a festeggiare quel che è rimasto da festeggiare, la salutiamo e la ringraziamo moltissimo e ci scusiamo anche per averla disturbata un po'. È stato un piacere, assolutamente. Ci saluti Alessandro. Grazie. Ci saluti Alessandro e soprattutto gli chiede di non salutarci, perché se poi si saluta poi diventa un problema. Grazie, a presto. Grazie. Allora, uno verde che si è rotto, uno grigio con la gommina, due neri, i fischietti. I fischietti, perché allora gli arbitri qua stanno descrivendo sul forum quanti fischietti avete, di che colore. C'è uno che scrive che ne ha uno verde che si è rotto, uno grigio con la gommina, due neri, solitamente uso questi attaccati, poi ce n'è uno bianco che nero, gli è stato nero comunque elegante, nero elegante, snellisce, è vero, proprio, è vero, cioè, vero. Poi ce n'è uno bianco che gli è stato regalato da un suo amico ex arbitro di basket, l'ha usato, sai perché? Una volta sola, ma sai perché? Perché porta sfiga, c'è scritto. Quelli del basket vanno col bianco, ma perché sono fricchettoni, quelli del basket che gli frega tanto. E poi ce n'è uno con attaccato l'orologio, l'attrezzo per sistemarlo sulla mano, regalatomi quest'anno a Natale di alcuni amici. Ma dai. Sai quell'attrezzo, cioè che quello che ti lega le due dita centrali, cioè il medio e l'anulare, e te lo tieni così, poi lo avvicini alla bocca per fischiare, capito quanti ne ha questo? Sì, vabbè. Invece c'è un altro che dice uno rosso, che cosa? È sempre il fischietto. Sì. Se lo estraggo dalla tasca partita del Menga, uno nero, se lo estraggo dalla scusa, partita del Menga. Cioè partita che va male. Ah, brutta. Dice uno nero, se lo estraggo dalla tasca partita tranquilla, e uno verde, se lo estraggo dalla tasca partita super. Sai perché? Perché lui li mette tutti e tre in tasca e poi tira fuori uno a caso. Ah. Fa così. Il sorteggio dei fischietti. Ma dai, così, quindi scaramanzia arbitrale, esatto, in questo caso, esatto, cioè, esatto, cioè esatto, cercare esatto di sopravvivere anche loro. Anche perché c'è questa cosa un po' strana. Io capisco che comunque gli arbitri di serie C o delle serie inferiori, però ci sono adesso un sacco di arbitri che quando entrano in campo si fanno il segno della croce. Sì, è vero. Hanno le scaramanzie anche loro. Sì, non ho capito. Non è che uno gli entra con i tacchi, non è che c'è Cambiasso che entra con i tacchetti sull'arbitro. Senti questo arbitro secondo me ti piace tantissimo. Questo è mio, sì, questo è tuo. Si chiama Doden chissà chi c'è dietro. Dice: uno bianco e uno nero, colori squadra del cuore, no Juve, attaccati insieme, quello bianco per il calcio d'inizio del primo tempo, quello nero per tutto il resto. Ecco, guarda, sono quasi commosso. Hai capito? Guarda, mi hai quasi travolto. Facciamo un lancio come le radio vere, le trasmissioni preparate, no? Facciamo un lancio come si deve. Sì. Cioè, il giorno era? Era il primo aprile dell'anno 1966. La sport era? Era pallacanestro, perché non si chiamava ancora basket, era ancora pallacanestro. Le squadre erano? Era l'Olimpia Milano, o meglio la Simmental, e lo Slavia di Praga. Ecco. Lo Slavia di Praga. Slavia di Praga, no, esatto. Rossa. No, quello in semifinale. Ah, scusa. È lo Slavia di Praga. Esatto. La partita finì? La partita finì 77-72 per la Simmental di Milano. Quindi stiamo parlando della prima volta che una squadra di basket italiana vinceva che cosa? La Coppa dei Campioni. La Coppa dei Campioni, la massima competizione europea a livello di club. Quanti anni sono passati? 1966, siamo nel 2013, sono passati 47 anni. Ne parleremo tra poco, ovviamente, dopo la pubblicità. Você sabe dançar? Não? Ah, eu também não. Então vamos experimentar, né? Pra ver se dá certo. Vamos dançar. A gente começa assim, né? Vamos ver. Intanto i nostri ascoltatori che si ricordano di quella partita possono telefonarci 349-238-6666 per mandarci gli sms, ovviamente subito in questo momento. Noi abbiamo annunciato ovviamente che parlavamo di questo anniversario, ne parliamo con Sandro Gamba, che è stato il vice allenatore della Simmental Milano in quel giorno. Insomma, pronto? Pronto, buongiorno, buongiorno. Molti auguri, buona Pasqua. Grazie, anche a lei, tutto bene? Grazie. Tutto bene? Sì. Sì, grazie a Dio. Bene. Abbiamo un mito del basket italiano, ricordiamo una delle tre persone che è nella Hall of Fame del basket ed era presente quel primo aprile del 1966 quando al Palazzo dello Sport di Bologna la Simmental Milano conquistò questa prima storica Coppa dei Campioni per club italiana. Come andò quella partita? Cioè, vi rendevate conto di vivere un momento storico che poi sarebbe stato ricordato come oggi dopo 47 anni? Sì, sapevamo che era una data storica per noi e il risultato sarebbe stato storico, perché noi avevamo già tentato due o tre volte di conquistare la Coppa dei Campioni senza riuscirci. E invece quell'anno, facilitati dal fatto che un certo Bill Brelle, uno dei grandi giocatori di tutti i tempi, era venuto in Italia a giocare solo la Coppa dei Campioni, perché Bill Brelle studiava a Oxford e tre giorni alla settimana veniva a Milano e si allenava con noi. E più avevamo Skip Torren, che era stata una terza scelta dei professionisti NBA, scelto dal Baltimora Bullets, una squadra che adesso non c'è più, sì. E noi potevamo giocare una pallacanestro di primissima qualità, tant'è che siamo arrivati in finale con lo Sparta Praga, una Sparta Praga che durante i quarti di finale ci aveva suonato anche mica male, perché nella partita di andata a Milano avevamo vinto noi, però quando siamo andati a Praga a fare l'incontro di ritorno avevamo perso di 23-24 sì, punti, insomma. Perciò era un avversario di quelli sì, un po' tosti, duri come i sassi. Mm. Poi c'era stata questa, diciamo, questa semifinale con l'Armata Rossa in cui voi avevate vinto 68-57. Già lì si vedeva un segnale, perché l'Armata Rossa era una corazzata del basket in quegli anni. Sì, l'Armata Rossa in pratica le prime 5-6 edizioni della Coppa dei Campioni le aveva vinti a mani basse. Poi c'è stato il periodo del Real Madrid e noi siamo stati i primi ad eliminare il Real Madrid proprio nei quarti di finale. E perciò prendevamo in pratica il posto del Real Madrid per battere i campioni dell'Est, che veniva tutti da oltre cortina, e c'era la Cecoslovacchia, c'era l'Unione Sovietica, allora non Russia, certo. E non so, l'Ungheria, che era molto forte. E noi ci siamo trovati in finale dopo aver battuto i russi e abbiamo giocato questa partita che era diventata in un certo momento un po' una battaglia molto dura, perché i cecoslovacchi giocavano molto fisico, con buona tecnica individuale, ma fisicamente con tanti muscoli. Ecco, senta, di solito in queste partite la cosa che poi diventa più interessante nel corso degli anni, poi si creano piccole leggende, però è capire che cosa ci si è detti dentro lo spogliatoio, cioè quello che noi non abbiamo visto, quello che noi non abbiamo sentito lì in quel momento all'inizio, cioè durante la partita, che cosa vi siete detti? Sì. Prima di tutto lasci spogliare i giocatori che hanno dei riti speciali. Prima sentivo la vostra trasmissione che qualcuno è superstizioso. Sì. Ci sono dei giocatori che hanno dei riti che sono come un interruttore che accende la loro attività fisica e mentale. E guai a interromperli. Ci faccio un esempio. Perché non è superstizione, no, ma no. Parte del gioco mentale del giocatore. Dopodiché l'allenatore si presenta e io mi ricordo come adesso Rubini ha detto: è la prima volta che andiamo in finale, è la prima volta che si gioca una finale in Italia, perciò deve essere la prima volta che noi vinciamo la Coppa dei Campioni. E il discorso finì lì, perché si sapeva già il quintetto d'inizio, come doveva essere la marcatura, tutto il resto era già stato fatto, il tipo di gioco dovevamo esprimere. Senta, ma ci racconta uno dei riti dei giocatori? Allora, ci sono i giocatori, ad esempio, che mettono tutto quello che devono indossare, a cominciare dai calzini, dalle ginocchiere, da sospensori, calzoncini, la maglia, la sopramaglia, la giacca della tuta, tutte in fila. Ah. E proprio lì davanti a loro, e cominciano a indossare. Qualche giocatore, per fare gli scherzi, va, so, gli ruba il sospensorio, questo qua diventa matto perché non lo trova più. Perché deve usare quella sequenza. Sì, è il suo ritmo proprio di prima della partita. Non so, c'era Bradley che prima della partita dormiva un quarto d'ora. Diceva, adesso dormo. E lui si addormentava e per un quarto d'ora dormiva. Ma dai, grandissimo. E guai svegliarlo. Questo gli permetteva di essere anche più concentrato poi dopo? La vita di spogliatoio è una grande scoperta per chi riesce a seguirla, vede le abitudini dei giocatori, conosce meglio i giocatori. Ci sono quelli che tremano, ho avuto dei giocatori che vomitavano prima della partita per l'eccessiva pressione e la tensione nervosa. Proprio la vita dello spogliatoio non ne parlano in tanti. Io potrei scrivere dei libri su questo. Infatti invece mi sembra una cosa particolarmente interessante come in qualche modo si affronta poi un evento che in cui in qualche modo c'è anche una grande pressione, perché lì c'era già pressione, no? Anche sì, sì, c'era grande. Poi ci sono dei giocatori che fanno dei riscaldamenti speciali per conto loro. Non so, per dirvi, io sono stato per un periodo con i Chicago Bulls e c'era Michael Jordan che prima della partita faceva mezz'ora in sala pesi senza i carichi massimali, certo. Poi faceva mezz'ora di stretching e poi faceva mezz'ora riscaldamento sul campo con la squadra. Cioè, quindi era già stremato. Era già stremato quando entrava in campo, insomma, alla fine. Sì, e poi quando finiva la partita, qualsiasi tipo di partita, andava ancora mezz'ora in sala pesi. Per dirvi proprio questo rituale, questa abitudine che non puoi togliere a loro. Ma c'era una differenza tra i giocatori italiani e i giocatori americani, in questo caso, da questo punto di vista? Cioè, proprio... Ma adesso non più. Una volta sì, perché non so, a metà degli anni 60, quando appunto Bill Bredel venne in Italia per la prima volta e faceva degli esercizi strani, e io ero assistente allenatore e dicevo: ma perché fai questi esercizi? Ma questi sono per l'allungamento dei muscoli, che era il famoso stretching, sì, che detto, sì, tutti fanno. Però in Italia allora non lo faceva nessuno. E allora lui ci ha insegnato, e ha insegnato alla squadra, come si facevano gli stretching, ecco, i vari esercizi per le braccia, per la schiena e per le gambe. Ecco, ma poi gli americani ci hanno insegnato anche, per esempio, le fasciature preventive alle caviglie, certo, che si fanno con i cerotti speciali. E allora noi a quei tempi i giocatori facevano le fasciature con le fasce elastiche, che non facevano niente, tenevano caldo il piede e basta. Beh, però era almeno il piede caldo, insomma. Sì, ci serviva più la mano calda in quel caso, però vabbè, in questo passaggio. Ecco, però allora a questo punto abbiamo detto cosa è successo prima, ci deve dire cosa è successo dopo, ecco, dopo che, come avete festeggiato. Sì, no, la partita è stata sempre molto, molto in equilibrio, però ci sono stati due giocatori in particolare, questo Skip Thoren, che era un centro, e noi giocavamo con due centri, con Masini e Thoren, perciò sì, avevamo già un vantaggio di statura sugli altri, e in più c'è stato Vianello. 40 punti. No, beh, no, Vianello ha fatto 40 punti nei quarti di finale, sì, contro il Real Madrid, aveva fatto, sì, 40 punti, in quella partita ne ha fatti 21 in finale. 21 in finale, come sì, Thoren, sì. Sì, 21 punti, che Vianello è stato il primo giocatore italiano ad essere tenuto d'occhio dalla NBA, che allora la NBA era di altissimo livello perché c'era solo 9 o 10 squadre, adesso sono 30, perciò i valori sono un po' diluiti. Nah. E lui era stato contattato, poi lui era un buon casalingo, era di Venezia, di stare in Italia, non voleva muoversi, sì, però lui non è stato un grande giocatore. Mm. Poi avevamo Riminucci ancora, sì, un po' verso fine carriera, ma che era il più grande contropiedista, era un tipo Mennea, come scatto, come sprint sui 30 metri del campo, quando lui sprintava con o senza palla non lo beccava nessuno. Senta, al termine della partita Rubini le ha detto qualcosa, o nel gruppo dello staff tecnico vi ha detto qualcosa per fare un bilancio di questa vittoria, che lei si ricordi? Sì, mi ricordo, sì, perché finita la partita tutti eravamo in spogliatoio non impazziti, perché la nostra era una squadra un po' nobile, tenevamo un contegno, non dico compassato, ma un po' distaccati, un po' inquadrato perché ecco. Allora era così, la squadra di Milano era sì, così, però dentro nello spogliatoio, a parte qualche bottiglia di champagne che è stata strappata, Rubini ha chiesto silenzio e ha detto: vi siete meritati questa coppa, avete lavorato giusto nel giusto modo, adesso abbiamo un pensiero. Tutti hanno detto: beh, cos'è che abbiamo adesso? Sì, adesso dobbiamo vincere il campionato. Ecco. abbiamo vinto anche il campionato. Beh, siamo certo, andati in finale con l'Ignis, sì, abbiamo perso, però dopo il risultato l'hanno dato a noi, perché loro avevano usato Tony Gennari, famoso giocatore, che non aveva i documenti a posto. E allora noi la ringraziamo, campionato. Mister, noi la ringraziamo moltissimo per averci dato questa testimonianza, tra l'altro nel giorno di Pasqua, quindi abbiamo disturbato anche nel giorno di Pasqua. Va bene, noi la ringraziamo. A presto, vi faccio ancora tanti auguri. Grazie anche a lei. A presto. Un mito del basket, Sandro Gamba, qui ai nostri microfoni, ha ricordato questo 1° aprile 1966, prima Coppa dei Campioni per un club italiano di pallacanestro. sta finendo la trasmissione, ma non è finita, perché tra poco parleremo di un altro anniversario. È molto meno chiaro, come dire, perché affrontiamo questo anniversario, ma lo scoprirete tra poco, ovviamente, dopo il traffico. Tra poco arriva, però adesso c'è un po' Patti Smith ancora. Dai e vai, non è solo calcio. Giovani all'ascolto di Dai e Vai, che non si ricordavano assolutamente niente, nulla di questa partita. Stiamo parlando di quella partita lì. Partita Slavia Praga Simmental Milano, con cui la Simmental Milano nel 66 vinse la prima Coppa dei Campioni di basket. Beh, allora andiamo subito con un altro anniversario, perché il tempo è poco e sta bruciando anche questa puntata di Pasquale di Dai e Vai, e stiamo parlando della Vespa, no? Della Vespa, perché? Siamo nel 1946, giusto? Esatto, marzo, fra la fine di marzo e l'inizio di aprile del 1946, in Italia viene presentata la Vespa. Sì, detto, però la Vespa adesso da lì, cioè, io capisco che il bridge fa parte dello sport olimpico, però la Vespa adesso chiamare, definirla sport, per quanto mi riguarda, avendo avuto frequentazioni con amici da fin da quando ero piccolo per la Vespa si usava per cuccare, no. Diciamocelo chiaramente, a quei tempi. Cioè, a quei tempi, infatti adesso ci fanno le gare con le Vespe. Con quelle Vespe lì, le stesse. Esatto. Va bene, parliamo con Carlo Bozzetti, presidente del Vespa Club Milano. Pronto, Bozzetti? Buonasera a tutti. Come sta? Sta bene? Molto bene. Ecco, allora... Nessun problema, auguri a tutti voi. Grazie. Senta, allora parliamo di 1946, lancio della Vespa, giusto? In qualche modo? Il lancio della Vespa, nasce qualche tempo prima, perché l'idea di Piaggio di produrre un veicolo economico è nato alla fine della guerra. Già nel 45 c'erano i disegni del primo prototipo chiamato MP1, MP5, detto Paperino, sì, sì, perché sembrava proprio una forma proprio così tutta completa di carrozzata, non c'era il passaggio dove adesso noi appoggiamo le gambe e così via, ma era, bisognava scavalcarla come se fosse un cavallo. E nel alla fine del 45 iniziavano la produzione, diciamo, dei primi modelli chiamati sperimentali e non prototipi di quella che poi è diventata la Vespa. Sì, e poi da lì, vabbè. Lì prodotto. Che periodo più o meno? Siamo giusti più o meno? Siamo nello stesso periodo mensile? Periodo, cioè, marzo-aprile? Marzo-aprile è incominciato a presentare nelle varie concessionarie, è stata presentata al Golf Club a Roma, è stata presentata alla mostra meccanica della metallurgia a Torino tra la fine del marzo e i primi di aprile del 46, e quindi poi su tutte le riviste. È arrivata alla conoscenza del grande pubblico sostanzialmente in questo periodo. Sì, c'è da pensare che la produzione, dalla documentazione ritrovata in Piaggio, la produzione prevista per i primi due mesi era di 85 veicoli. In realtà nell'aprile del 46 ce n'erano prodotti 15, compresi 5 chiamati sperimentali. Ecco, perché la Vespa si chiama Vespa? Allora, qui c'è una bella discussione. Si chiama Vespa perché, allora, molti dicono al rumore della Vespa e così via. In realtà le note raccontano che l'ingegner Piaggio, vedendo un collaudatore molto robusto proprio provare la Vespa, disse: chissà se reggerà il suo peso, perché ha un vitino da Vespa. Infatti il logo Vespa, che bisogna anche ricordare che era comparso qualche mese prima con l'AMV. L'AMV fece una moto leggera chiamata Vespa 98, un motociclo proprio, mm-hmm. poi ritirato perché scoprì che la parola Vespa era già stata usata e brevettata da una ditta a Milano negli anni 30. Piaggio sembra che acquistò il nome Vespa. E esiste il documento che in una data ben precisa venne disegnato, adesso non ricordo di preciso quando fu il giorno, viene disegnato il logo Vespa che è agli atti, eccetera eccetera. Ecco, allora tendenzialmente per quanto riguarda noi che abbiamo vissuto l'epoca della Vespa della Vespa, proprio quella che c'era quel sellino no, che saliva un po' su e che poi aveva questa gobba finale, sì. No, come questo proprio sembrava proprio una Vespa, esatto, quella Vespa lì, insomma, per noi il riferimento è quello di la Vespa mangia le mele, cioè mangia le mele, insomma, cioè in questo caso si cucca, insomma, con la Vespa, diciamoci chiaramente. Questo senz'altro. Ecco, negli questo, anni 70 con la Primavera, le T3. Ecco, non lo dica a me che avevo il Garelli, lo dica ad altri, ecco, lo dico soltanto perché di Milano aveva la Lambretta. Ecco, appunto. Bozzetti, mettiamo giù. Questo bisogna dirlo, perché la passione non ha, come si dice, non ha confini. Ho fatto la Vespa perché era di Milano, io ho conosciuto la Vespa, la Lambretta, io ho conosciuto la Vespa, mi sono innamorato subito, mi l'hanno data per correre, sono diventato tra virgolette famoso perché non sono collezionista, non faccio parte del mondo Piaggio, se non che io la Vespa le prendo, le uso, le consumo, le rompo, le riparo. Va bene. Le riparo nel senso percorrere. Però la cosa importante è quello che ci stai dicendo, che ci sono delle gare della Vespa, giusto? Allora, ci sono gare... velocissimi, perché siamo in ritardo. Allora, ci sono gare su tutti i fronti, dal trial, regolarità, gincana molto forte in Italia, ripresa da 2 anni in Italia... si fanno gare di regolarità notturna come la nostra 500 km con controlli, 30 controlli al centesimo. 500 km con la Vespa? 500 km con la Vespa di notte. Di notte. Diciamo, no, dai, stiamo con delle date. No, Bozzetti, no, dai, adesso non sta scherzando. Beh, 500 km con la Vespa? Negli anni d'oro sono state fatte manifestazioni come il Giro dei Tre Mari, 1800 km in qualche giorno. Con la Vespa. Adesso... 10 edizione della 1000 km ripresa 2 anni fa e quest'anno si farà un'altra edizione. Adesso vengono chiamati Audax, sono 1000 km, sono dei trasferimenti con all'arrivo delle prove, una prova cronometrata per fare una classifica. Mi dispiace moltissimo dover rallentare e in qualche modo interrompere questa cosa. Dove possiamo trovare tutte queste gare della Vespa? Allora, vi indico dei siti, diciamo i 3 siti più importanti. VespaWorldClub.com, che è l'organo che gestisce tutti i Vespa Club del mondo. Poi? Poi il Vespa Club d'Italia, che è il sito italiano, e Vespa Club Milano, perché trovate tutte le indicazioni, visto che il Vespa Club Milano è da sempre riconosciuto come il Vespa Club sportivo per eccellenza. Noi la ringraziamo moltissimo per queste indicazioni, mi ha sempre un po' così, mi ha lasciato un po' perplesso questi 500 km notturni con la Vespa, io ne facevo soltanto 1,5 km, già avevo mal di schiena, figuriamoci 500 km. Abbiamo avuto un anno, scusi se interrompo, 7 partecipanti con il Ciao. Non li hanno più trovati, lo dico anche questa, non li hanno più trovati, quelli lì col Ciao. No, ne ho uno qui di fronte che mi sta guidando la macchina. La ringraziamo moltissimo, ce lo saluti, è stato bello, grazie. Velocissimi, dobbiamo andare via e ricordiamo e ringraziamo Valeria Bernardi e Roberto Scaltriti che ci hanno guidati ancora una volta al mixer, ovviamente Luca Cancellara che è stato in redazione ma questa volta anche persino dietro il vetro, ancora una volta in onda Luca Gattuso e ancora una volta in onda Sergio Ferrentino. Noi vi lasciamo però in un modo un po' particolare, cari ascoltatori, vi lasciamo con una voce, con una canzone, con un personaggio che ci è stato molto vicino, è stato molto vicino a tanti di noi, insomma lo ricorderete voi. In questo caso canta in una maniera un po' particolare, canta con un gruppo brasiliano, sono giovanissimi, l'hanno scoperto 2 o 3 anni fa e hanno fatto un disco insieme a loro. Questo pezzo è un pezzo molto particolare perché Enzo Iannacci spiega dei brasiliani, dei cantanti e dei giovani brasiliani, il gruppo sono i Seltom, come cantare Iannacci direttamente. Noi ci sentiamo domenica prossima sempre alle 16:30, dai e vai, Radio 24, non è solo calcio. ovviamente anche stasera alle 22. Amami, dite sempre amami, alla fine dite sempre amami. Amami, amami, stringimi, sgonfiami, amami, amami, amami, amami, amami. Insomma, voi riuscite a trasformare quattro brasiliani in quattro lombardi. Amami, amami, stringimi, sgonfiami, amami. No, non due M, almeno due M. Amami, amami, amami, amami. Amami, amami, prendimi, sgonfiami, amami, e dopo amami, amami, stentami, stracciami, amami. E dopo stringimi, dammi le brezza dai tenderi. Aiue. Prendimi, con le tue labbra carezzami. Aiue.